si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. La nomina dei direttori con questa procedura internazionale è veramente innovativa. Siamo il primo paese al mondo che fa una selezione per i propri 20 più grandi musei internazionali aperta, che ha portato a nomi di grandi qualità. I musei oggi, i visitatori vogliono che sia un'esperienza, vogliono multimedialità, vogliono servizi, vogliono caffetterie, vogliono le collezioni spiegate bene, vogliono laboratori didattici per i bambini. Modernizzare il nostro sistema museale significa tutelare meglio il patrimonio, ma anche investire sulla crescita del paese. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buonasera a tutti, benvenuti a Si può fare. 18 20 e 30 800 24 00 24, potete cominciare subito a prenotare il vostro intervento in diretta, anche gli altri contatti, vai così, giusto per gradire. Giusto, su Facebook siamo Si può fare trattino Radio 24, su Twitter siamo Si può fare 24 e poi ci sono, i nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini, il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora, cioè, questa gara è giunta al termine, la gara del ministro Franceschini per i 20 musei. 10 sono donne, gli altri 10 sono uomini, 7 sono stranieri, 4 questa rientrano dall'estero. Esatto, e sono tutte donne le 4 che rientrano dall'estero. Però i nostri alfieri della cultura e dell'arte, Daverio e Sgarbi, già hanno detto che non va bene. Non va bene, però non mi sembra per una questione degli stranieri, più per una questione di lottizzazione. Ma no, per esempio, perché Sgarbi diceva questo fatto che siano 10 uomini e 10 donne è quasi un politicamente avranno corretto, scelto troppo insistito. Poi però si mortifica, ha detto i funzionari delle sovrintendenze, insomma non gli è piaciuto. Non va bene. A me mi sembra una buona idea questa cosa di avere dei direttori che siano anche stranieri, mi sembra molto giusta. Dire che mi sembra che sia il vero modo in cui forse si fa l'Europa da un certo punto di vista. Siamo tutti uniti, sono tutti europei comunque, non è che vengono da altri posti, sono europei e quindi ci scambiamo i direttori. Ma poi no? Sai, dice che si prendono sempre persone cooptate dalla politica, nominati dai politici, questa volta è gente che viene dall'estero, quindi non credo che possa averli cooptati tutti, qualche direttore generale del ministero. Se fossero stati tutti tedeschi, tu dici forse c'era lo zampino della Merkel. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi aspettiamo. Questa è la colonna sonora di Notti al Museo, se non l'avete riconosciuta, tra l'altro. Per gli appassionati di Ben Stiller. Allora, Monsignor Galantino non ha fatto un passo indietro, come diceva qualcuno, come auspicava qualcuno, no? Si mette a far politica ma si tolga la tonaca, ha detto il segretario della Lega Salvini anche ieri sera ai nostri microfoni. Galantino poco fa, il segretario della CEI, ha ribadito: la politica a cui siamo abituati a vedere oggi non è più quella dei De Gasperi, eccetera, eccetera, ma è un piccolo harem di cooptati e di furbi. Altra bordata ai politici da Galantino. Però sentiamo Salvini ieri su Galantino. No, ma io le chiedevo se Galantini e il Papa hanno due posizioni diverse. No, non mettiamo sullo stesso piano la cioccolata con qualcos'altro. Quindi il Papa è il Papa e ha tutto il rispetto che deve avere. Monsignor, la cioccolata Galantino, chi sarebbe il Papa? Ci mancherebbe altro, non sicuramente questo Galantino di cui non si sentirà la mancanza quando smetterà di essere vescovo. Il 29, 30 settembre e 1 ottobre. Quindi noi andremo a incontrare alcuni ministri per chiedergli di che cosa hanno bisogno in termini di soldi, di investimenti, di strade, di impresa, di scuola, per cercare di aiutare i nigeriani a poter crescere i loro figli nel loro paese, che è quello che si dovrebbe fare l'Europa, dovrebbe fare l'ONU, dovrebbe fare Renzi. Il famoso viaggio in Nigeria della Lega, che qualcuno stava cominciando a temere, non lo so. Dipende dai punti di vista. Bisognerebbe chiedere ai nigeriani se aspettano in gloria Salvini oppure no. Ieri le abbiamo chiesto, a Salvini ha detto no, no, andiamo, tutto confermato. Questo viaggio che da mesi il segretario della Lega dice di voler fare in Nigeria per parlare, per fermare un po' l'ondata migratoria. Ma perché si candida anche in Nigeria? Forse. Non sarebbe male, che lo ritroviamo anche in tutte le trasmissioni nigeriane? Sentiamo però anche Daniela Santanchè che in concorrenza con la Lega e con Salvini, perché sentite cosa spara. Questo fatto che ormai sta passando il concetto che chiunque nel nostro paese può arrivare e fare quello che vuole, perché basta uscire nelle nostre strade, vedere ormai che ci sono califfati che si sottraggono alla nostra giurisdizione, che ogni angolo di strada si è trasformato in un souk. Sì, ci sono dei califfati dove si sottraggono alla nostra giurisdizione. Tu li hai visti i califfati andando in giro per Milano? No, devo dire. Ma forse non sono a Milano. Forse sono più lontano, no? Non lo so, sentiamo. No, lei dice Milano, mi sembra. Sentiamo. Pensare che spendiamo 36 euro, che li facciamo vivere in quel popò di casa, con delle cucine tutte in acciaio, organizzato, fatto, quando i nostri pensionati vanno a raccattare nel bidone dell'immondizia, perché non riescono più a comprarsi da mangiare. Ma voi siete matti! Ma di che tipo di alberghi parlava? Perché 36 euro al giorno comunque è difficile proprio andare in un 5 stelle con le cucine in acciaio. Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei. Ma stasera non ospiteremo Daniela Santanchè. No. E invece sentiamo il ritorno di Enrico Letta ieri all'Expo. Il successo dell'Expo è una grande soddisfazione per l'Italia, c'erano state tante aspettative negative che sono state invece spazzate via da quello che sta diventando un successo planetario. Vabbè, questo era Letta. Invece un altro ex premier, ex cavaliere, no, adesso è stato riabilitato. Ah, è di nuovo cavaliere, ma non è premier. Berlusconi, che non perde la battuta, mai la perderà. Senti come risponde a un giovane cronista inesperto che gli pone una domanda in una maniera un po' impropria, e lui che ne ha viste e ne ha fatte più di Carlo in Francia, però senti come gli risponde. È stata una squadra già più cazzuta, si può dire, stasera. Come fuori fascia protetta. Insomma, l'orario è tardo. Gagliardo. Io vengo dai Salesiani. Allora diciamo Gagliardo, Presidente. Ho servito messa tutte le mattine per 8 anni. Ho suonato l'organo e intestato i cori. A me queste domande, no, in questo modo, mi scuso. Non me le può rivolgere. Mi scuso. Allora. Però allora Gagliardo si può dire? Gagliardo si può dire. Poi però ride naturalmente, perché però, insomma, era un pelino ironico. Però non perde mai un colpo, nonostante tutto. Sentiamo per chiudere la copertina Vittorio Feltri sulla decisione. Tra l'altro si sta attendendo la decisione definitiva del Tribunale dei Minori di Milano sull'assegnazione del piccolo Achille nato da Martina Levato. Il mio timore comunque è che Achille, così si chiama il bimbo di Martina, finisca in un istituto, e personalmente sono convinto che la peggiore famiglia sia preferibile al miglior istituto, e tuttavia io personalmente non mi fiderei assolutamente a consegnare un bambino a una signora come Martina, che peraltro non ha saputo giustificare in modo completo, in modo esauriente, i motivi per cui commise il delitto. Giusto per parlare della svolta impressa dal ministro Franceschini ai vertici dei musei italiani, Vittorio Sgarbi, buonasera. Eccolo, sono qua. Eccolo qua, che tra l'altro è candidato a sindaco di Milano, gli abbiamo dedicato questa canzone su Milano, parleremo anche di questo. Tutto confermato, Sgarbi, la candidatura? Ma, Beh, quella è stata una apertura che è inevitabile in un momento di totale assenza di persone che abbiano attenzione reale per Milano. La defezione di Pisapia, che si ritira o dice di non volersi più candidare a un mese dall'Expo, e poi la decadenza del ministro Di Lupi, per cui quelli che erano in campo, poi appare Passera così in maniera piuttosto strumentale rispetto a un partito di cui forse la presenza appare Passera e non se ne accorge nessuno, si potrebbe dire. Ecco appunto. Però dico, sì, no, a questo punto mi è sembrato che fosse, poi naturalmente si potrà negoziare, valutare se posso tornare a fare l'assessore con un altro candidato sindaco. Come ma secondo lei che sindaco è stato Pisapia? Un buon sindaco, un cattivo sindaco? Un sindaco che non si è visto, no, di queste figure. Un po' meglio di Marino, ma sono queste figure che fanno il sindaco per un'ondata politica sfavorevole alla parte avversa, in questo caso la Moratti. Quindi non vincono per loro merito, ma per demerito dell'altra parte. Ma non hanno passione, furore, la città di Milano è la città più forte, più potente d'Italia. Un sindaco potrebbe essere un condottiero straordinario di tutto. E l'idea invece che ci sia un elemento così intimistico di turbamento, di preoccupazione, va bene per un poeta, non va bene per... Ma qual è l'elemento intimistico di turbamento? Cioè si riferisce a come sta finendo questa legislatura? Ha dichiarato la sua natura, la sua sensibilità, la sua... Sì. È come... è una... persona. Beh, però scusi Sgarbi, il milanese è un po' così, cioè non è che sia proprio grande estroso, non è un condottiero, quello forse più romano, il milanese è un po'... Il mio collega definisce il milanese grigio ma affidabile. Sì, ma non mi riferivo al fatto del temperamento psicologico, sì, ma al fatto che un sindaco deve essere una guida, invece una guida turbata, una guida che ha dei problemi, che ha delle malinconie, non può fare la guida. Quindi la figura di Pisapia è una figura lottesca, come quella dei quadri di questo pittore che si mostra i tormenti delle persone. Infatti il suo tormento lo induce a non candidarsi. In questo senso era molto più un condottiero la Moratti, la Moratti aveva un temperamento guerriero. La guerra non vuol dire che uno a Milano deve fare delle guerre di religione, ma semplicemente che deve guidare una città che ha bisogno di temperamento, di un polso fermo, delle direttrici, delle guide a cui indirizzare la propria visione. Comunque insomma, Sgarbi, però non sono mai stati molto chiedo scusa, sono Carlo Gabardini, le volevo chiedere una cosa: non sono mai stati molto diciamo evidenti e molto in mezzo alla piazza i sindaci di Milano ultimamente, giusto? Ma se essere in mezzo alla piazza, questo dipende molto dalla demagogia, però la personalità di Tognoli era una personalità Tognoli andiamo molto indietro però. Beh, però è l'ultimo sindaco che Milano ha avuto, poi l'ha avuto la Moratti, gli altri Formentini erano Albertini. Albertini era una figura così, anche lui timida, di gestore, però già più concreta di Pisapia. Pisapia è un poeta, è uno che racconta i suoi, un po' come Marino, cioè sono due città che hanno delle persone che non hanno il senso della affermazione di valore. Però scusi, di è che forse mi piacciono i poeti, è colpa però, mia, però penso che lei ci abbia ragione. Scusi, però a Roma tutti gli indici sono in basso, sicuramente. E Milano invece no, Milano cresce il turismo, appunto, c'è meno disoccupazione. Milano. Appunto, dico, una città che è l'unica città che funziona d'Italia, ci vuole un sindaco euforico, non un sindaco depresso, malinconico. Ma non ha nessun merito Pisapia sul fatto che la città funziona? So. Non credo, non funziona. Vabbè, i sindaci funziona... poi... Sì, il sindaco si possono sopravvalutare molto e anche, diciamo, e anche dargli delle colpe che a volte non hanno. Però adesso facciamo la pausa per il traffico e poi torniamo con Sgarbi, che ha detto un grave errore la decisione di Franceschini, il bando per i musei italiani. Sentiamo perché. Si può fare l'attualità anche d'estate. Insomma, a parte Milano abbiamo parlato un po' di questo, magari poi ne parliamo anche dopo. Lei ha definito un errore, insomma, questa decisione e il modo in cui poi è finita questo bando per i 20 musei italiani. Davvero non le piace il bando internazionale? No, mi fanno schifo i bandi, mi fanno schifo le gare, i concorsi. Ma l'altra parte, la contraddizione è evidente. A lei risulta che ci sia un bando per fare l'assessore o un bando per fare il presidente? A me risulta che ci sono tanti assessori incompetenti però, sì, appunto. Però il tema di fondo è che esiste la l'istituzione della nomina. La nomina è quella per cui il Presidente della Repubblica nomina un Presidente del Consiglio. Non si fa la gara per diventare Presidente del Consiglio. Allora, l'emblema, che piaccia o non piaccia, è che i concorsi universitari sono pieni di delinquenti, di incapaci, di sgrammaticati, perché ci sono dei concorsi in cui uno mette il suo assistente, che è quello che gli ha leccato il culo tutta la vita. Quindi il concorso è un'istituzione profondamente negativa, ma soprattutto se si pensa che il presidente di questo concorso è un nominato, e cioè Baratta, grande presidente della Biennale, sta per essere rinnovato attraverso un emendamento a una legge in cui la sua nomina non deriva da un concorso, e quindi diventa presidente di un concorso quando lui stesso, se io per la Biennale nomino Baratta, è perché un ministro, attraverso i suoi consulenti, la sua valutazione delle cose, deve avere il potere di nominare qualcuno a un ruolo di responsabilità. Però scusi, l'alternativa sarebbe stata che Baratta nominasse direttamente senza nemmeno fare il bando internazionale. No, non Baratta, il ministro. Baratta è o il ministro, inutile. Sì. Ma Baratta non deve nominare niente, Baratta è già un nominato, se ne stia tranquillo. Lui, cioè, meglio nominati dai politici che scelti tramite un concorso. Non nominati dai politici, nominati dai ministri, così come accade in qualunque paese civile. Cioè, Jack Lang, grande ministro, o i nostri ministri del passato, hanno nominato Brandi, Argan, i grandi storici sono stati nominati da dei ministri. Però scusi, il ministro Franceschini ha gli strumenti, secondo lei, per stabilire tutti... No, ma può avere tutti... i consulenti, può avere i consulenti per farlo. Cioè, i tecnici del ministero. Comunque, la chiave è questa: c'è uno Stato. Sì. Lo Stato ha dei questori, ha dei prefetti e lo Stato ha dei magistrati. Immaginiamo che i magistrati, che sono i peggiori di tutti per i loro arbitri, invece di essere nominati attraverso un concorso, venissero chiamati in un percorso fatto in questo modo: litigano Robledo e Brutti Liberati, allora facciamo un concorso internazionale per nominare un giudice internazionale al posto di quei due. Ma che roba è? Sarà un giudice italiano, il giudice, uno storico dell'arte italiano non vale uno storico dell'arte straniero? E perché? Tant'è vero che basta vedere gli uffici aveva un ottimo, straordinario direttore che è Natale, hanno nominato un giovane storico dell'arte tedesco, solo perché è tedesco, che non ha alcun merito di più di Natale. Però ha avuto delle esperienze, ha lavorato al Getty Museum, a Sotheby's? Sì, appunto, Sotheby's vuol dire il mercato. Ma non è questo che ci aspettiamo noi, cioè che questi direttori di questi musei facciano rendere anche economicamente questi musei? Ma non lo faranno mai questi direttori che hanno nominato, perché sono dei direttori che hanno concorso per loro vanità. Occorre individuare una persona che affianchi un direttore competente come studioso, conservatore, persona capace di conoscere le sue collezioni, che deve avere a fianco, come si fanno le mostre, con tante mostre che io stesso ho fatto nei miei diversi ruoli di assessore, di sottosegretario, sono fatte con qualcuno che è un produttore della mostra. Allora ci vuole un manager che affianchi il direttore. Ma mortificare Antonio Natale nominando Schmidt è un tradimento dello Stato a se stesso. Cioè, io ho i miei quadri di gente che ha fatto già un concorso, che l'hanno fatto per entrare in sovrintendenza come per entrare nella magistratura, poi una volta che tu hai fatto il concorso da magistrato si nomina una commissione che nomina un altro magistrato al tuo posto. Ma che roba è? Per cosa ho fatto la mia carriera? Ma non ce n'è nessuno che le piace? Tutti questi guardi, non ce n'è nessuno che gli piace di questi 20? Ha visto i curriculum? Sì, no, sono bravi. Per esempio c'è una bravissima direttrice, che è la direttrice che ha preso il posto mio, io ero sovrintendente a Venezia, e poi c'è stata una persona dopo di me, scaduta quella, quel posto era completamente libero, quindi lì potevano fare quello che volevano. Hanno nominato la direttrice del Museo Civico di Castelvecchio a Verona, una bravissima funzionaria comunale. Per quanto io la consideri bravissima, non mi pare che mancassero sovrintendenti e diciamo funzionari dello Stato che potessero avere quello stesso ruolo. Ma questi per cui, però potevano, però scusi, questi potevano partecipare al concorso, no, ma non hanno mica... partecipato, alcuni sono stati mortificati. Quindi c'è stata una selezione, mortificati, però vuol dire che è stato scelto, è stato deciso che c'era qualcuno più bravo ma di loro. Ma chi l'ha scelto? Ma chi l'ha scelto? Le vedete, ci sono i commissari. Baratta non ha nessuna idea della storia dell'arte antica. Ma questi non sono, non sono i consulenti del ministro Franceschini, no, sono, la commissione? Sono la commissione è di gente totalmente inutile. Devi andare a vedere uno che si chiama Canova, c'è gente che non sa niente. Ma se chiamavano Sgarbi invece, in commissione poteva essere meglio. Chiaro. Sarebbe stato sicuramente meglio, perché almeno 5, 6. Ma meglio per Sgarbi o meglio per noi? No, a parte no, gli scherzi. Meglio per tutti voi, perché io avrei rinominato Natalia. Lei deve fare questo, deve vedere. È caduta la linea. Pronto Sgarbi? Non credo che sia l'interruzione di chiamata di Canova, questa che sta chiamando a questo punto Sgarbi. Sta entrando a gamba tesa, a gamba tesissima. Vabbè, insomma, la notizia è questa, l'avete sentito? Tra l'altro, Schmidt, questo tedesco, stato appunto al Getty Museum, a Sotheby's, ci sono tutti i curriculum online. Noi vi vogliamo chiedere, cari ascoltatori, anche a questo punto, secondo voi, che cosa dovremmo anche affidare ai tedeschi o all'estero, oltre esatto, ai musei, altri ruoli che vi piacerebbe, dare a esternalizzare, come si suol dire, quindi di dare dei ruoli banche, nostri tipici, ma anche la nazionale di calcio, non lo so, qualunque cosa, l'allenatore per esempio, di nuovo? L'allenatore della squadra di calcio. Sgarbi ce l'abbiamo di nuovo, eccolo qua. No, dicevo, 10 uomini, 10 donne è la misura di un concorso fatto soltanto per il politicamente corretto. Questo è vero, questo insospettisce un po'. Certo, però io, no, stranieri, perché non 8, 10, 12, vabbè, però, 4. Se fossero stati 10 di nuovo si diceva metà e metà. No, io, no, ma dicevo 10 per dire che il numero di 7, per dire non possiamo non avere uno straniero. Certo. Però, ma agli Uffizi, questo signore, che è molto bravo come storico dell'arte, sì, non vale di più di Natali. E mortificare Natali è un atto inaccettabile di arbitrio di un ministro. Ma perché lei dice mortificare? Nel senso che non perché essendo stato lui confermato? Ah, va bene. Perché non dovrebbe avere, cioè, se non è bravo lo confermi, no? Certo, beh, però certo, ha fatto, cosa ha fatto? 10 anni quasi Natali agli Uffizi. Appunto, perché non doveva continuare? Un ministro normale che abbia il senso rispetto alle persone dice: facciamo un accordo, Natali, tu rimani un altro anno. Quindi gli Uffizi, poi, gestiti come sono stati negli ultimi 10 anni, andavano bene, secondo Sgarbi. Benissimo. Avevano il massimo dei visitatori, hanno fatto delle mostre meravigliose, sono stati straordinari. Non capisco perché una cosa che funziona devi mortificarla. Poi Capodimonte, metti un francese, ma può anche essere russo, può essere napoletano, può essere. Gli Uffizi, no, mai. Capodimonte non funziona perché non è collegato. Allora bisogna che chi arriva in piedi a Palazzo Reale, dove fare delle grandi iniziative, diventano una, come dire, succursale di Capodimonte, ma non è che mettendoci un francese risolvi i problemi di Napoli. Anzi, in un caso così specifico direi che forse lo aggravi, perché come dice giustamente lei è una questione anche di infrastrutture, che quindi sì, non sta solamente a lui decidere. Ma le volevo chiedere una cosa in generale, sì, uscendo dal metodo che è ovviamente opinabile e del quale io non me ne intendo, però mi chiedevo, secondo lei è una buona o una cattiva notizia che ci siano anche degli stranieri, lasciando perdere chi siano nello specifico? No, è una pessima notizia, perché non c'è più l'impero austro-ungarico. Ma le risulta che a Parigi chiamano degli stranieri? Beh, in realtà sì, perché alcuni di questi anche italiani hanno fatto il vice amministratore generale del Louvre, per esempio. Alcune funzioni vanno benissimo. Il problema è che tu puoi avere, siccome un museo non ha un solo direttore o conservatore, hai un team, certo, un capo che può essere un sovrintendente italiano, poi hai un conservatore di una raccolta, un manager per un'altra, se potevano articolarla in maniera tale da rendere più funzionanti i musei, non la figura apicale del direttore. Certo. No, è che a me, le confesso che a me sembrava una buona notizia, abbiamo aperto così la trasmissione, addirittura dicevo, mi sembra anche un buon segno, quasi che forse l'Europa la si fa più attraverso la cultura, e quindi non mi sembra male che ci siano dei direttori di altri paesi che vengano qua e noi che lo facciamo in altri posti, però forse ho sbagliato, siccome l'esperto è lei. È chiaro che il principio generale non è di per sé sbagliato, allora se vuoi uno straniero lo chiami, io discuto il concorso, cioè mettere a concorso un bravo funzionario italiano, un bravo funzionario tedesco, vincere il tedesco per un punto è una stronzata, perché non è che sono distanti, cioè diciamo, io mi metto in gara con qualcuno e sono così più bravo che è indiscutibile che devo essere io, ma se uno è appena più bravo di un mezzo punto è ridicolo, allora il ministro deve dire io nomino, non faccio concorsi affidati al signor Baratta, scelgo le persone. Vabbè, i primi 7 li ha scelti Franceschini, però questo va detto, No, non ha scelto nessuno. I primi 7 no, non li ha scelti no, lui? No, li ha scelti nella terna, sì, li ha scelti nella terna. Gli altri li ha scelti il direttore generale Soragni. Ma sono tutte delle selezioni fatte. Il problema è che il ministro deve assumere la responsabilità tra i suoi consulenti di una decisione, quella stessa che lo ha portato a nominare Baratta. Non c'era una terna per Baratta. Baratta è stato nominato secco, a che cosa? Al più importante museo italiano, che è la Biennale di Venezia. E quando Baratta nomina i direttori delle sezioni, sì, però, basta. Però scusi, è il concorso che è una merda. No, l'abbiamo capito, che non le piace. 82, 83, 81. Sì. Ma che vuol dire? Cioè, capito che abbia 100 e 70. Però scusi, per poter Franceschini nominare qualcuno, doveva avere delle disponibilità. Come faceva? Andava a cercare delle persone che non erano disponibili? Questo modo non è servito anche per diciamo raccogliere delle disponibilità sul mercato dell'arte, della cultura? Sì, ma e poi dire questo sì, questo no. Disponibilità eccezionali sul piano manageriale, che era quello che diceva, raccolto delle disponibilità di altri storici dell'arte. Questo è possibile, infatti i curriculum adesso sono online, ci sono già un po' di commenti, alcuni sembrano, a dire la verità, con pochi titoli. Ecco appunto, devo dire la verità. Altri, sì, ma altri. Poi guardi, se lei prende i titoli, beh, l'unico campione che mi interessa, il resto non me ne frega nulla, perché tanto non è che fossero delle aquile né qua né là, sì. Un'aquila non faranno niente, come saranno fare, ma l'elemento chiave in Italia si chiama Uffizi. E agli Uffizi c'era uno che aveva 100 e hanno messo uno che ha 3. Questo è il dato. Beh, questo è inspiegabile effettivamente, perché se dovesse, allora, se deve essere un concorso. Se Baratta mi avesse chiesto, dice, io posso dire con orgoglio che non ho avuto raccomandazioni. Se l'avesse avuto, mi hai chiamato, se l'avessi saputo, lo chiamavo io dicendo nominate di al ministro. Io pensavo, gli avrei imposto Natali. Perché imposto Natali, una raccomandazione. Uno scandalo nazionale, imposto. La raccomandazione sarebbe stata risolutiva. Va bene, grazie. Se voi dovete fare adesso, per sì. I cazzi vostri, un confronto fra il titolo di Natale e quelli di Schmidt, vi accorgerete che Schmidt. No, ma noi ci affidiamo a Sgar. Se no non lo chiamavamo. Io poi non è che devo dire un ipse dixit, dico che lì ipse dixit. Lì a me il concorso piace, però poi sui titoli dei candidati non lo so. Abbiamo chiesto a lei. Una cosa. Se voi siete lì, voi due stronzetti, sì. Siete quelli che avete preso il posto di quegli altri due. Sembra possibile che Cruciani senza bando, senza concorso. Possono fare un concorso? Se Cruciani e Parenzo possono essere messi a concorso? No, la dai a loro e basta. No, anche perché se lo mettono per loro, poi lo mettono anche per me e mi tolgono il posto anche a me. Grazie Sgarbi, buonasera. Ciao. Grazie mille. Vabbè, insomma, avete sentito l'opinione autorevole di Sgarbi. Io insisto, il concorso secondo me è una novità, è una buona notizia. Si dice sempre che sono tutti nominati, cooptati dai politici, per una volta c'è un bando internazionale. Certo, i curriculum su quello è più quello difficile, saremo a vedere, e io come capiremo. Dicevo prima, sono contento, poi diciamo, che tutto andasse bene prima nella gestione della cultura in Italia, non lo so, io non questo, credo. Questo non lo so, però come dicevo prima, secondo me il fatto, io preferisco che diciamo gli Uffizi restino italiani con un sovrintendente straniero, con un con un direttore straniero, sì. Piuttosto che come avviene questo momento tipo in Grecia, che gli aeroporti vengono comprati dalla Germania, ma tutti gli aeroporti, non è che mettono lì un loro uomo, comprano la proprietà dell'aeroporto. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ascoltatori, come la pensate voi? Dovremmo affidare anche le poste, le banche, il governo, tutto ai tedeschi o ad altre persone che vengono dall'estero? Oppure siamo noi quelli che hanno dei punti in più rispetto alla Germania? 800 24 00 24. E abbiamo anche già delle risposte per SMS, gente che dice un sindaco di Napoli tedesco, che sballo! Tutto il governo tedesco sarebbe bellissimo, precisione teutonica e così via. Alessandro da Fermo, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. E volevo intervenire per porvi una riflessione. Sì. Quando ho avuto la notizia del direttore tedesco agli Uffizi, mi è venuto pensato un vecchio libro degli anni Ottanta, Berlinguer e professore, non so se ce l'avete presente. No. La curiosità era questa: in questo libro si prospettava che Kissinger, a garanzia del prestito per l'Italia, avesse voluto le opere d'arte italiane mettendo una targhetta sotto proprietà degli Stati Uniti d'America. Ah. Un tedesco che ha lavorato per Sotheby sembra venuto apposta a stimare il valore dei nostri beni culturali. Chissà se perché possano essere una garanzia futura per il debito italiano. Una bella teoria complottista molto. Ci mancava. È un po' complottista. No, però è una teoria interessante. Io sarà che sono un po' complottista. Quindi lei dice: ci mandano qua il direttore di modo che cataloghi con precisione le opere e capisca quanto vale. Ma non potevano realmente mandare uno in incontro. Scusi, attenzione, non ce lo manda, lo nominiamo noi. Certo, sì, lo nominiamo noi. Ha ragione. Stimare quanto valgono le nostre opere. Alessandro, scusi, ma una futura società. Sì, abbiamo capito. Però scusi, Alessandro, ma potevano mandarci in incognito chiunque in qualunque momento a fare questa stima. Non c'era bisogno di nominare il direttore. Eh no, perché il direttore può anche andare nei magazzini, può vedere le cose che ci sono veramente. No, io sto con l'ascoltatore complottista. Va bene, grazie Alessandro. Grazie mille. Sentiamo grazie. Se questa teoria fa presa sugli ascoltatori, anche sugli altri. Andiamo con Silvia che ci chiama da Roma. Buonasera Silvia. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo fare un intervento sui musei, perché io ho una figlia di 18 anni che mi ha detto adesso che vuole studiare beni culturali. Adesso proprio oggi? Quest'estate siamo andati in Polonia e abbiamo visto dei musei bellissimi a Varsavia, interessanti, multimediali, spiegati, e ho detto questo è un modello da portare avanti, quindi dobbiamo noi costruire una classe dirigente che sia in grado di avere questo tipo di iniziative, questa formazione e quindi benvenga, benvenga il bando internazionale secondo lei, quindi. No, il bando internazionale ci sta, però dobbiamo avere noi dei futuri dirigenti che sappiano concorrere e vincere anche all'estero. Ma noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ma è giusto, ma e tra l'altro, giustamente come dice lei, sono stato in Polonia, abbiamo visto dei musei molto belli, quindi può anche essere che ci siano delle personalità polacche che vengano qua a gestire i nostri musei e ci insegnino delle cose, poi noi gestiremo i loro, nel senso che non è che è eterna, non è che noi prendiamo un polacco e rimarrà per sempre. Poi speriamo che sia sua figlia fra 10 anni a gestire il museo. Questo sì, ma dobbiamo imparare anche noi, insomma, a sviluppare capacità manageriali oltre che a competenze storiche, storia dell'arte, artistiche, eccetera. Va bene, dai, noi abbiamo dei monumenti che non si paga per andarli a vedere, tantissime cose ultra gratuite, ultra aperte, tutto bello, tutto fruibile, però forse non va bene neanche questo, insomma, per cui no, infatti, parli di rientro nei musei, nei musei dove per andare a vedere un unico quadro. Ecco, certo. E allora, grazie, buona serata Silvia. Buonasera. Buonasera, grazie mille. Allora, andiamo con Giuseppe dalla provincia di Salerno. Buonasera. Buonasera. Niente, io ho chiamato prima perché mi incuriosiva la trasmissione e pensavo di poter esprimere il mio parere in merito insieme Prego. A quello degli altri. A me questa nomina, questo tipo di nomina, con innanzitutto la parità di genere, sta diventando una vera ossessione, una fissazione italiana, no? È un'ossessione oramai, cioè è come se questo servisse a garantire non si capisce che cosa, perché no, garantire il fatto pari opportunità per le donne che spesso non le hanno, ma pari opportunità se poi andiamo ai vertici delle aziende, ai vertici, se poi andiamo a vedere ai vertici di alcune aziende o vediamo ai vertici di alcune strutture, il 60% dei dirigenti sono donne. Dove? Dove? Ma in alcuni nelle aziende sanitarie. In alcune aziende sanitarie, se lei va a vedere. Ma se in alcune aziende, ho capito, ma per tutti gli altri il 90, per tutti gli altri il 90% sono uomini. Vabbè, allora diamo la parità di genere e facciamo passare per principio che devono essere 10 e 10. No, ma non è un principio, mi scusi, almeno no, in realtà è, diciamo, per ovviare a una situazione di profondissimo maschilismo, per cui in realtà tutti i ruoli dirigenziali sono degli uomini, si fa la cosa delle quote rose, che è una cosa che di per sé è sbagliata, ma è un punto di partenza semplicemente per mettere il riflettore sulla questione che le donne non hanno i posti di potere. Tutto noi qua. Noi siamo d'accordo su questo. Il problema è che spesso la sponsorizzazione politica per manifestare un nuovo concetto dice abbiamo messo una donna. Ha ragione, in questo ha molto ragione. Lei sta con Sgarbi. No, io voglio dire questo. Se passa il principio che in Italia, che è la culla del Rinascimento, abbiamo il massimo dell'attività storica culturale, possono arrivare gente dal Canada, dalla Germania, ed essere nominati come direttori dei musei, io questa cosa, devo dire la verità, me la devono spiegare, perché non la condivido. Innanzitutto perché non vedo che altrove si fa lo stesso con le nostre figure dirigenti. Guardi, 4 di questi direttori di musei sono italiani che rientrano dall'estero, quindi erano italiani che erano andati all'estero. E sono contentissimo. No, ma questo per dire che gli italiani che vanno all'estero a dirigere delle strutture museali ci sono, proprio perché noi abbiamo la tradizione, è ovvio, ha ragione lei, noi abbiamo la tradizione, forse la tradizione nella cultura e nella gestione dei musei nel mondo, però questo non vuol dire che non possa arrivare qualcuno dall'estero che ha qualcosa da dire, bravo, competente, che ha studiato, perché no? Io questa cosa, che si apra il mercato in questo senso non mi fa piacere. Preferirei accodarmi a questa situazione quando anche altri hanno fatto la stessa cosa per noi. Ma è così. Guardi che una di queste amministratori di cui parliamo è stato il vice amministratore generale del Louvre ed è un'italiana, per esempio. Si chiama Claudia Ferrazzi. Direttore generale del Louvre. Io parlo del principio, io non conosco la procedura che succede altrove. Sì. No, dico ma che hanno iniziato altri prima lei di noi. Lei non darebbe alle Poste e agli svizzeri da gestire? Io darei le poste agli svizzeri. Non credo, perché sì. Se noi pensiamo che le poste svizzere funzionano bene solo perché c'è lo svizzero, sì, è come dire che il meccanismo dell'orologio va preciso perché è svizzero. Ma io lei non credo che sia questo. Ci sono professionalità in Italia. Allora diciamo ai tedeschi, vai. Diciamo ai tedeschi, siamo agli svizzeri. Va bene, comunque abbiamo capito il suo punto di vista, Giuseppe. Sì. Non ci vanno giù. A lei proprio l'estero non le piace. Giuseppe, certo, buona serata, allora, grazie. I tedeschi ha toccato su un argomento che è meglio non scendere sull'argomento, lasci stare. Grazie, buona serata. Grazie mille, buonasera. Giovanni da Pordenone. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Mi sentite? Sì, forte certo. E chiaro. Ecco. Sarebbe stato opportuno ricordare al signor Sgarbi che sì, lui è entrato con un concorso nella pubblica amministrazione e, se ricordo bene, è stato cacciato via. Sì, ha avuto addirittura una condanna per frode. Sì, ha avuto una condanna perché non andava a lavorare. Produceva dei certificati per assenteismo. Sì, è vero. Viene a pontificare per difendere il suo piccolo regno, nel senso che lui pensa di essere il più grande critico del mondo. Forse lo è, non lo so, io non sono all'altezza di dare un giudizio, però come si permette lui di dare giudizi negativi su persone che hanno grandi incarichi all'estero o che pure non hanno raccomandazioni, come evidentemente ha avuto lui, che è stato sottosegretario, sindaco, questo, quello e quell'altro, sarà anche bravo, ma mi pare che per arrivare a certi punti, lo ha detto lui nel suo intervento, si è contraddetto. Beh, però che lui possa esprimere un giudizio sulla qualità di questi direttori nominati per concorso ci sta, nel senso che lui ha le competenze, quindi gli abbiamo chiesto semplicemente se secondo lui erano dei buoni direttori o meno. Sì, ma lui ha una sua opinione, certo, che è sua, che sarà anche di un bravo critico d'arte, ma non è solo l'unico. Ma per no. cui le scelte, tra l'altro lui le scelte quando è stato al governo, quando è stato a fare il sindaco, eccetera, eccetera, se le ha fatte da politico, per cui si è contraddetto completamente nel suo intervento. E la dovreste anche smettere, datemi in retta, io vi ascolto con simpatia sempre, anche quando non facevate questo orario. Bravo, grazie, così perché poi a settembre, ora finisce, che vengono solo per far finisce la pacchia e noi a settembre torniamo nell'orario... Sabato e domenica la mattina, come la pacchia? La pacchia è quello, il nostro weekend, la mattina presto. Beh, ma anche qui la sera ci si divertiva. Andiamo con un altro ascoltatore al volo, Antonio da Rovigo, buonasera. Da Rovigo, non è da Rovigo Antonio? Sono io, da Rovigo. Prego. Sì, dicevo buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Sempre. Ecco, niente, voi prima avete chiesto cosa fareste gestire all'estero da personaggi esteri. Sì. Io lo dico in due parole: l'Italia. Tutto perché proprio. In Italia siamo bravi a tante cose, siamo bravi col cibo. Ma in due parole, nel senso l'Italia, una è l'articolo e l'altro è Italia? Esatto, l'Italia. Perfetto. Esatto. Va bene, Antonio, perfetto, grazie. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. L'attualità anche d'estate. I remember when Rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. Had an old gold chair and a place of my own, but the biggest kick I ever got was doing a thing called the crocodile rock, while the other kids were rocking around the clock. We were hopping and bopping to risposto ad una polemica lanciata contro il sindaco di centrodestra di Venezia, lanciata niente meno che da Elton John. Lei è la portavoce del nuovo centrodestra ed è schierata contro la teoria gender. Buonasera Valentina Castaldini. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, buonasera. Lei ha fatto un tweet per rispondere a quello che aveva scritto Elton John. Le ha risposto Elton John su Twitter? No, non mi ha risposto, però vede che ho ragione. Ascoltando la canzone mi viene da dire: è bravo a fare il cantante e continua a fare quello. Come ma questa era facile, questa era facile, perché in effetti ho fatto un tweet semplice, no, apposta. È giusto. Ma e come mai non è bravo invece a fare dell'altro, nel senso che credo che, insomma, entrare in una polemica, ma non solamente sul merito, perché lui ha dato anche un metodo di lavoro, cioè ha detto che quel sindaco non è un bravo sindaco, sì. E che si vede da questo, cioè è un po' poco, mi sembra, che non è bravo a fare il sindaco. Mi faccia però riepilogare la notizia, sì, perché sennò magari qualche ascoltatore non capisce un tubo di quello che stiamo dicendo. Allora, Elton John ha scritto che Venezia sta affondando. Tra l'altro, secondo me lì ha proprio sbagliato a confondere Venezia col sindaco, però in realtà voleva attaccare il sindaco di Venezia dopo che il sindaco, con un'ordinanza un paio di mesi fa, aveva chiesto alle scuole dell'infanzia di togliere dalle scuole dei libri come quelli che nella famiglia Elton John, lui, il compagno e due figli avuti tramite fecondazione assistita, leggono. Il libro tipo The Family Book, nel quale, descrive Elton John, c'è un mondo inclusivo, le famiglie sono di tutte le forme, dimensioni e colori, non c'è discriminazione. Questo sindaco ha detto favorisce l'ignoranza. Questo è l'attacco, no? Faccio anche un'introduzione, sì, un po' di questa storia, perché in realtà è una storia molto lunga. È una storia che è nata nel 2014, quando una consigliera comunale di Sel decide di spendere 10.000 euro di soldi del comune per regalare dei libri che a lei piacevano particolarmente. Come se voi, non so, come se un telespettatore decide che a lui piace tutta la storia, mettiamo così, della Lega, e regala a una scuola per bambini da 3 ai 6 anni dei libri sulla storia della Lega. Allora, capite che sindaco... Beh, un momento, non è la storia, cioè parlare di differenze non è esattamente la storia della Lega. Però, che sia un politico, mi perdoni, poi dopo... Prego. Grazie. Ma ci mancherebbe. Un politico a decidere che cosa sono leggere dei bambini da 3 infatti, a 6 anni. Infatti io concordo. Grazie. Infatti neanche il sindaco Brugnara avrebbe dovuto, secondo me, intervenire. No, ma quei libri ci sono già, e per cui se mi permettete, essendo che ho un figlio esattamente in quella fascia d'età, una figlia in particolare, ma almeno che ci sia così qualcuno, un coordinamento pedagogico, qualcuno che dica: ma questi libri a me vanno bene, faccio una scelta pedagogica, essendo scuole del comune, cioè non è che sono scuole private dove uno manda i propri figli liberamente, ma fa una scelta pedagogica e dice: a me quei libri piacciono, sono utili, dico alle famiglie che portano i figli qua che io, nel momento di libertà, perché non è che è una lettura accompagnata, per spiegare un po' come va il mondo, la vita, la società, ma si vede un angoletto della scuola, come accade tutte le scuole, dove i bambini liberamente vanno a prendere dei libri e vanno a leggere. Allora, se questo discorso può andare bene per ragazzi che sono già un po' formati, se mi permettete, almeno nella dinamica di una famiglia, posso decidere come educare mio figlio e posso decidere se quella scuola deve avere i... Ma lo dovrebbe decidere la scuola, no, però, no, in realtà lo dovrebbe decidere la scuola, perché sennò... Figli, un pochino, i genitori valgono ancora dai 3 ai 6 anni oppure no? Ma non è che valgono un pochino, valgono tantissimo, ma l'educazione scolastica è l'educazione scolastica. Sapere che cosa c'è in quella scuola, no? Certo, infatti parliamo di libri tipo Piccolo Blu e Piccolo Giallo, un capolavoro totale proprio che ha letto qualunque bambino, quindi certo che uno lo deve sapere che tipo di libro legge, e quello per esempio è un libro che andrebbe assolutamente letto, e non credo che ci sia nessun problema su questo. Infatti il sindaco, credo che l'altro ieri l'abbia anche tolto dall'elenco, così, da che c'era. Certo, però se li ha tolti tutti dall'elenco. Scusa, facciamo un passo in avanti, diventare Thomas Mann è una roba che fa ridere i polli, quindi facciamo un passo in avanti, però scusi Castaldini, perché non è che ha aggravato la posizione di Brugnaro il fatto che lui a un certo punto ha preso la foto del manifesto del concerto di Mika, noto omosessuale, sul quale era stato scritto Frocio, e l'ha messo sulla sua pagina Twitter, ingenerando qualche polemica sicuramente l'ha ingenerata, evidentemente. Forse da domani sulla comunicazione bisogna dargli una mano, è giusto collaborare tutti insieme, esatto, gli dia una mano, che lei mi sembra più brava. La ringrazio per il complimento, però il punto è che lui in realtà ha dichiarato più e più volte che lui lo faceva come solidarietà amica. Adesso ma come si fa a fare solidarietà amica? È come dire metto la foto con tre negri impiccati e voglio fare solidarietà contro l'apartheid. Non si può, se lei fosse un sindaco, sì, sarebbe capace di fare una roba così perché cosa? Io mi sono chiesto chi cura la sua comunicazione, guardi. Al di là di tutto, cioè il povero mica, insomma, che sia un manifesto e che uno vada a dire una cosa così a mica, che comunque è un artista. No, che ma sa cos'è, Castaldini? È che sì, da un sindaco come Brugnaro, che come primo atto ha fatto questa cosa di togliere i libri che, come dice lei, parlano della teoria gender, secondo altri semplicemente aprono a famiglie diverse che non quelle eterosessuali, da un sindaco così la scritta Frocio su mica fa pensare, non so cosa fa pensare, non necessariamente fa pensare alla solidarietà, è questo. No, lo chiederemo a Brugnaro, sono certo che il prossimo collegamento sta con Brugnaro. Io, insomma, mi viene da difendere, da dire che sì, un sindaco non è così ingenuo da fare una cosa così, l'ha dichiarato, cioè ha detto oggi, è riportato anche su alcuni giornali, che era per esprimere una solidarietà, per cui io, insomma, parto sempre dal fatto che ci sia buona fede iniziale, poi dopo in politica può cadere di tutto, ma insomma credo in questo. Le faccio una domanda, mi scusi, visto che leggo il suo tweet dove lei dice Brugnaro fa il suo mestiere, ha mantenuto promesse elettorali su gender. Che cos'è la teoria del gender? Ma guardi, la semplifichiamo, è quello di cui voi oggi state parlando, cioè il fatto che non esiste più una differenza di genere. All'inizio in maniera molto elegante si sosteneva, in tutti i consigli comunali questo avveniva, arrivavano degli ordini del giorno in cui si diceva che il genere non esiste più, cui noi passiamo la mattina, guardi, ma si possono sentire uomo o donna, e le mando tutto quello che guardi, io sono la professionista, sì, no, consiglio comunale, no, siccome... sono la professionista in questo, io li leggo, li voglio leggere molto volentieri, perché in realtà la teoria del gender non esiste, questo lo sappiamo tutti in realtà, non esiste proprio per niente, è una cosa che è stata ultimamente, diciamo, inventata nel mondo del family day, di tutto quello, per terrorizzare, è un po' come quando si diceva che i comunisti mangiavano i bambini, e quindi improvvisamente è stata inventata, ma perché guardi, lei può parlare con chiunque, cioè non esiste, ci sono gli gender studies che sono del 2011, mi sembra, che parlano di tutt'altro, non c'entra niente quella cosa che avete messo insieme dagli 0 ai 4 anni, insegnare la masturbazione, sono tutte fregnacce, lo sanno tutti, cioè proprio non esiste. E io le volevo chiedere una cosa, però mi scusi, siccome lei dice Brugnaro ha fatto il suo lavoro, sta difendendo le promesse che ha fatto gli elettori, quindi Elton John non dovrebbe avere il diritto di intervenire. Io invece mi chiedo, secondo... Eh no, lei dice ha fatto il suo lavoro, quindi l'altro canti. Esatto. Ecco, io mi chiedo, ma se uno difende una promessa elettorale che secondo me è vergognosa, che non esiste, che è sbagliata, tipo che uno dice che ne so, che i cinesi non possono sposarsi con gli abruzzesi, e io, anche se non sono né cinese né abruzzese, posso dire la mia e dire secondo me quel sindaco sta facendo un'emerita vaccata e ho tutto il diritto di dirlo. Quindi uno che si sveglia la mattina, cioè sintetizzo, no, c'è un danno d'immagine, dice Gabardini. No, io quello che dico è, se uno si sveglia la mattina, apre il giornale e legge che un sindaco di Venezia ha vietato 49 libri a dei bambini, che sono una follia, perché sono libri uno migliore dell'altro, che spiega la questione della diversità, e io posso dire, boh, a me mi sembra un pazzo questo che vieta queste cose, certo, questo? O no? Certo, come io posso dire che Elton John deve cantare nel merito, no, oltre a cantare, ma c'è un punto, cioè che bisogna conoscere tutta la storia, e tutta la storia non è che lui ha vietato, ha fatto un falò in piazza, ha bruciato i libri per dire io sono il paladino antigender, no. Adesso, beh, la risultante è la stessa, è peggiore, no, è peggio. Se no, ma se vabbè, un po' sì, li ha vietati, no, mi si permetta, prego, e prego, semplicemente il fatto che uno dice, beh, sono stati regalati da una consigliera Sel questi libri con una spesa per il comune di 10.000 euro, le faccio un esempio, sai che se noi facciamo una convenzione con i privati quei 10.000 euro sono 10 posti in più per i bambini per andare a scuola. No, così, vabbè, ma non buttiamo la scuola, e allora togliamo tutto il materiale didattico, vabbè, per esempio delle storie che non ci sono posti in nido, che le madri non sanno come fare la barba, è una difesa da ufficio comunicazione di Brugnaro, questa, e lei è più intelligente di questo, le dico questo, però il punto è che evidentemente ha detto fermiamo un attimo, capiamo il contenuto di quei libri e capiamo se c'è qualcuno, un pedagogista, perché ci deve essere. Insomma, bisogna spiegare, scusi Castaldini, perché devo chiudere, No, mi diverto troppo con voi, aspettate. No, dobbiamo chiudere, c'è il giornale radio, mi dispiace Castaldini, bisogna inviare, lo potrebbe fare lei su Twitter, un tweet a Elton John per spiegargli la storia di come è nata questa cosa, quindi che la consigliera di Selle, eccetera, eccetera, ha fatto i libri, è un po' complicata su Twitter, però. Però ci mandi a noi, se ancora che ci sta ascoltando, ci mandi tutte le cose sulla teoria del genere alla nostra mail. Giornale radio, torniamo dopo. Lei che è un radical chic, no? Io sì, grazie. A Spunti di Vista ci occupiamo dei mille aspetti dell'attualità, quelli che incidono su come viviamo, sulla qualità della vita, i confronti e i modelli con gli altri paesi. Sono Irene Zerbini e vi aspetto con Spunti di Vista tutti i giorni dalle 7 alle 10 qui su Radio 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buonasera. Sulle note di Elton John, che nonostante tutto la Castaldini ha detto, le piace Elton John? Sì, come cantante sì, continua a fare il cantante. C'è la risposta su Twitter del sindaco di Venezia Brugnaro, ma non alla nostra intervista. No, lo stesso Elton John, che dice: caro Elton John e compari vari, la sfido a donare risorse vere per salvare Venezia. Passiamo ai fatti, fora Ischei. Elton John, cioè, ha usato anche la carta del dialetto. Beh, la carta del dialetto è molto bella, ma io non ho ben capito perché se uno contesta l'operato del sindaco, tu gli chiedi i soldi, tu lo faresti? Perché Elton John, che c'ha la casa a Venezia, forse, capito, ma non è che tu ha detto che Venezia affonda, e lui dice: allora dacci una mano. Però ha cambiato discorso. Però la portavoce nuovo centrodestra Castaldini, ai nostri microfoni poco fa, ha detto sostanzialmente, ha consigliato a Brugnaro di cambiare ufficio stampa, ufficio comunicazioni. Sì, signore. Nel frattempo, cari ascoltatori, avete sentito anche i titoli dei giornali radio. È arrivata la notizia: la Levato potrà vedere il figlio una volta al giorno. Martina Levato, che si è macchiata del grave colpa, è stata condannata a 14 anni per aver sfregiato l'ex fidanzato con l'acido, ha partorito, lo sapete, il figlio, lo potrà vedere, quindi un miglioramento per lei, per la sua famiglia, non si sa se per il bambino. Felt, sentiamo Felt. Il mio timore comunque è che Achille, così si chiama il bimbo di Martina, finisca in un istituto. E personalmente sono convinto che la peggiore famiglia sia preferibile al miglior istituto. E tuttavia io personalmente non mi fiderei assolutamente a consegnare un bambino a una signora come Martina, che peraltro non ha saputo giustificare in modo completo, in modo esauriente, i motivi per cui commise il delitto. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. La notizia a cui siamo partiti stasera con l'intervista, tra l'altro, a Vittorio Sgarbi, è la decisione del ministro Franceschini di la fine della pratica del bando per i 20 direttori dei musei italiani. 7 sono stranieri, 10 sono donne, eccetera eccetera. Sgarbi ha bocciato completamente più la modalità che le personalità, così, con queste parole, sentiamo. No, scusi, è il concorso che è una merda. L'abbiamo capito. Che non le piace. 82, 83, 81. Sì. Ma che vuol dire? siete lì, voi due stronzetti, sì, siete quelli che avete preso il posto di quegli altri due. Beh, farsi dare degli stronzetti da Sgarbi, sono molto contento. Bei momenti. Se Cruciani e Parenzo possono essere messi a concorso, no, te lo dai a loro e basta. No, anche perché se lo mettono per loro, poi lo mettono anche per me e mi tolgono il posto anche a me. Grazie Sgarbi, buonasera. Auguri. Allora, eccoci qua, cari ascoltatori. Abbiamo, che abbiamo qualche ascoltatore proprio, sì, da sentire. Siamo in attesa. No, no, prego, prego, siamo in attesa di Piotta. Ah, giusto, tra poco Piotta dovrebbe venire a trovarci. Mi piace molto la frase di Feltri che abbiamo già fatto sentire due volte: la peggior famiglia è preferibile a qualunque istituto. Io questa frase me la voglio ricordare poi un giorno quando si inizierà a parlare di adozioni per famiglie omosessuali. Nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte. Tu in questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai. Donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce bruciate che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ma non perdona. È uno, è il rapper romano più ascoltato, uno dei rapper italiani più seguiti. Ha appena fatto un nuovo disco nel quale, come sentite, parla anche dei vizi della capitale. Sempre più spesso però entra nelle polemiche della politica, in particolare con i politici della Lega Nord. È con noi Piotta. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Tour e con un nuovo disco anche. Come sta andando col disco intanto? Ma molto bene, il disco era un po' disco rischio perché si chiama Nemici anche insomma nel lettering. Sei partito un po' forte, eh? Sì, un po' forte a bomba. E il lettering, lo diciamo per chi non lo sa, perché non l'avesse visto, visto che siamo in radio, è Nemici scritto con lo stesso font identico di Amici, quindi è immediatamente riconoscibile. Che poi credo sia anche quello di Fame e della Coca-Cola, ma insomma al di là di questo ci tenevo a non volevo dire troppi brand nella stessa frase accomunati al tuo nome, mi sembrava brutto, scusami. No, andiamo al senso, che è quello di sottolineare un percorso insomma in ambito musicale molto differente da quello diciamo imposto dai talent, e anche con un senso di musica non come competizione ma invece come condivisione, non come sofferenze e lacrime ma come invece felicità, o dove è necessario, come in questo caso, battaglia, nel senso che sicuramente Sette Vizi Capitale, non solo quello, raccontano un po' una Roma sempre un po' più dura, scura, crepuscolare, non solo Roma. Non è un bel momento per Roma. Senti, ma per tornare invece a Nemici, no? So, avrei seguito, anche per chi ha creduto forse nei talent tipo X Factor eccetera, adesso la decisione di affidare a Aurora Ramazzotti, io non la conosco, non so niente di lei, però la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, la conduzione della fascia quotidiana del programma, non so se lo sapevi. Notizia, sì, no, beh, sì, social, come non esatto, credo, diciamo. È un po' come dire la fine di una parabola, dal tuo punto di vista, te lo domando, tu che appunto io penso che la notizia c'è, la chiacchiera anche, però aspetterei di vederla all'opera, perché magari poi si dimostrerà bravissima, come spero che sia bravissima per lei, perché sennò rischia di essere schiattata. Tu la conosci? Io no, beh, più piccola, non l'ho mai conosciuta, insomma. Senti, invece tornando alla canzone che stiamo sentendo, dedicata alla tua città, dicevi in un momento un po' cupo, come la definiresti? Decadente, decaduta, in perenne lotta tra i cittadini e gli affaristi, predatori, politici, come... Ma io la sento in una grande fase di cambiamento, c'è voglia di rinnovarsi, di rimboccarsi le maniche, e poi ognuno deve fare il suo, io come artista, però non da solo, cioè con un'ampia schiera di colleghi anche di generi molto differenti, è quello che stiamo provando a fare con delle iniziative che possono essere una canzone, anche delle serate di impegno sociale per cercare di strappare anche tanti luoghi all'ennesima speculazione edilizia. È una fase di cambiamento, spero che porti a qualcosa di meglio, e non è detto che la vittoria sia garantita, però devo dire che insomma tante persone ce la stanno mettendo tutta quanta, in questa crisi in qualche modo qualcosa di positivo c'è, appunto. Per esempio noi romani siamo sempre un po' resti a collaborare, di solito ognuno è un po' attento al suo piccolo giardino, è un po' un difetto secondo me anche in ambito musicale, e invece c'è grande unità, tra l'altro tra persone con percorsi anche molto differenti, penso a Elio Germano che viene dal cinema ma fa musica, il Muro del Canto che avete sentito nel brano, me, il Colle del Fomento che è un altro gruppo storico, ma anche Chef Rubio che magari uno collega, chi non lo conosce di persona, a un programma televisivo e basta, o Zero Cascare per dirne un nome che sicuramente è molto attento a tematiche sociali ed è risaputo, ma non siamo solo noi, ci siamo tanti e c'è una frequentazione reale fatta di non tanto di discografia, di manager, fatto proprio di persone che parlano, si conoscono, si scambiano idee e cercano anche di metterle in piano. Ma per esempio ai tuoi concerti adesso chi viene? I ventenni che sono diventati trentenni, adesso quarantenni, o ci sono anche i ragazzini più giovani? Anche i ragazzini, c'è un po' di tutto, c'è chi mi ha seguito dalla prima ora, quindi ormai è superato i 40 e porta magari anche i figli, c'è chi mi ha riscoperto in seguito, c'è anche chi è molto più piccolo e magari mi segue proprio da questa evoluzione finale che riguarda questi tre, cioè Suono Diverso, Odio gli Indifferenti e Nemici, che già insomma nei titoli sono abbastanza manifesto di un'attitudine musicale e anche di contenuto di un certo tipo, quindi la miscela non è più solo rap che mi stava un po' stretta, un po' noiosetta. Ma infatti per esempio ultimamente hai fatto anche un video, un'intervista doppia con Elio Germano entrando sul tema dell'immigrazione, per dire che cosa? Ma per dire che si parla tanto, no, di Roma pulita, ci sono vari siti insomma sul tema, io credo che una città si guardi non solo dalla pulizia maniacale, che per carità nessuno mette in dubbio che sia importante, ma è una pulizia morale, cioè una grande città deve saper accogliere a braccia aperte persone che vengono da fuori in cerca di miglior fortuna. È logico che sarebbe un sogno, un'utopia, riuscire a dare spazio a tutti, però sicuramente bisogna far sì che il più persone possibile possano davvero avere una chance, un'occasione, e cercare di essere più umani. Se una grande città deve mantenere quel lato di più umano possibile, non di spietato cinismo, spesso fomentato proprio facendo leva sulla tanta sette vizi capitale. Sicuramente un vizio presente è la rabbia, che c'è di suo perché c'è tanta frustrazione, ma è fomentata, subillata sicuramente da politici che senza troppi scrupoli pensano al loro interesse, che è quello di aumentare la percentuale di possibile voto di consenso. Sì, ma soprattutto agendo direi sull'ignoranza e sul pregiudizio. Il video che avete fatto tu e Elio Germano in questo è veramente esemplare, spiega in maniera esemplare il fatto che tutti pensiamo delle cose che ci hanno inculcato in testa che sono delle fregnacce colossali, e invece l'80% dei rom non è vero, insomma tutte le cose che dite, che è molto preciso, mi sembra molto utile. Però c'è tanta, devo dire che i social network da questo punto di vista un po' hanno aiutato, ma molto per assurdo hanno un po' invece alimentato c'è di tutto. Conoscenza. Cioè, più di uno ha pensato, Elio è tanto bravo, però è meglio che sta zitto, me la dico un po' la romana. Perché non hanno capito che invece forse probabilmente è molto bravo come attore, che era volutamente il suo un gioco sopra le righe, ma molto sopra, per far capire. Vabbè, ma mi sembra difficile. Mandaci in radio qualcuno che pensava che veramente fossero le idee di Elio Germano. Te lo manderò, c'è una regista di videoclip, c'è un signore che lavora in banca, c'è un po' di tutto. Ma che non avevano capito. Sì. Senti, però tornando invece ai temi di cui avete parlato anche del video di Elio Germano, è il fatto che tu dici la politica strumentalizza a fini elettorali, no? Insomma, lo sappiamo, la Lega su questa questione qua dell'immigrazione sicuramente fa una parte del suo consenso elettorale, giusto o sbagliato che sia, ognuno poi la può vedere come preferisce. Però a Roma mi incuriosisce, quando ci sono stati i disagi e le proteste a Tor Sapienza, se non ricordo male, anche a San Nicola, era tutte, tu che sei romano, tutta roba montata, strumentalizzata? Non è tutta roba montata, cioè io oggettivamente ho un uso molto libero dei miei social, nel senso che mi piace confrontarmi con le persone, e capita anche qualcuno che tranquillamente magari nel mio esprimermi in maniera diametralmente antagonista a Salvini prende magari le difese di Matthew, cioè nel senso che logicamente toccando certe corde, non volendo andare a scavare, cioè quello io contesto alla politica, non nel giocare insomma con le parole, con la storia per trarne un proprio beneficio, però senza alcuno scrupolo, con molto cinismo, con poco senso dell'umanità, ma anche con poca prospettiva. C'è un grande statista, secondo me non raccoglie così a mani basse, cioè non voglio usare l'aggettivo piazzista perché poi sennò sembra che sono legatissimo ad altro ambiente, ma sicuramente il fatto dell'urlare così e fomentare in malo modo e tirare fuori il lato più violento e rabbioso non giova a nessuno, e nemmeno alla stessa persona che tira fuori questa rabbia. Cioè, apparentemente si sfoga, ma poi in realtà crea un clima di tensione che a Roma si respira, quindi quei fatti è vero che sono accaduti, che poi appunto non porta bene né gli uni né gli altri, sicuramente diventa una, sempre più una lotta tra poveri. Senti, prossime date del tuo tour, so che ce n'è una il 29, credo. Il 29 a Lodi, il 30 a... Ah, vieni dalle nostre parti, allora... Sì, sì, no, intanto ho cominciato il tour a Milano, al Magnolia Summer Festival, per cui sempre con... Anche perché mia madre, purtroppo non c'è più, ma era di Milano, per cui so che a volte stupisce questa cosa, ma... Tutte le volte che vorrai e che vuoi potrai venire a trovarci anche in studio, noi anzi molto volentieri, anche se poi traslocheremo nel weekend, il sabato e la domenica mattina. Devi svegliarti presto o il sabato o la domenica, però, per poter essere ospite da noi, perché noi andiamo ma la domenica spesso uno suona il sabato, quindi cade bene, anche secondo me arrivi lungo dalla serata ed è perfetto. Sì, direi. Poi se sono riusciti a venire in studio alle 9:30 della domenica mattina in 99 posti dopo il concerto, non ricordo se era Leon Cavallo, puoi farlo anche tu, Piotta. Sì, devo dire che se l'hanno fatto loro mi sbilancio, posso farcela anche io. È una promessa, la prendiamo per una promessa. Grazie mille. Grazie. Grazie l'invito a voi, buon lavoro. Ciao, grazie. In bocca al lupo. Buona serata. 800 24 00 24, torniamo dopo la borsa. Voi siete lì, voi due stronzetti, sì. Siete quelli che avete preso il posto di quegli altri due. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, allora tra poco riprendiamo a sentire gli interventi degli ascoltatori all'800 24 00 24. C'è qualche tweet, qualcosa da segnalare? No? SMS, vediamo, veloce, al volo, tac, se no sentiamo il TG3, vai, titoli. Fermate gli scafisti responsabili dell'ultima strage, bastonate a chi voleva uscire dalla stiva, così sono morti in 49, oltre 100.000 arrivi a luglio. Polemica immigrazione, duro attacco di Monsignor Galantino, la politica di oggi, areme, cooptati e furbi, no di Forza Italia al blocco proposto alla Lega. Rivoluzione nei grandi musei italiani, tra i 20 nuovi direttori 7 sono stranieri, agli Uffizi un tedesco, Franceschino una svolta, Sgarbi polemico, umiliano i nostri. Giornata nera per le borse cinesi, un crollo del 6%, limitano le perdite i listini europei, Italia minore di cassa integrazione, Renzi segnale positivo. La decisione del Tribunale di Milano sul figlio della coppia dell'acido, la madre potrà vedere il bambino una volta al giorno, ma aperta la procedura di adozione. Identificato l'attentatore di Bangkok, ripreso dalle telecamere mentre piazza uno zaino esplosivo, caccia l'uomo nel paese, ancora diverse le ipotesi sugli autori. In vigore le nuove regole del codice della strada, si potrà andare in due sul motorino già a 16 anni, dalla patente scompare il richiamo alla residenza. Capitano, dimmi come si sta, se sale in cattedra all'università, il concetto che chi affonda è chi non pensa per sé, che chi pensa pure agli altri poi non sfonda, perché la grazia non è per te, con la corona di spine, la finestra vi ascone dentro alle clessidre, mentre il gregge parla, mentre il gregge vela, sulla diversità ci ho fatto una carriera, sentiero meno battuto, mai sentita battuto, qualcuno risse battuta, ma io non seguo nessuno, se ti lavi. Questo le mani, è Piotta, e su un rap trovare un punto in cui entrare praticamente impossibile. Antonio D'Alecco, buonasera. Pronto? Prego. Buonasera, volevo intervenire riguardo all'argomento della teoria del gender. Sì. Prego. Ecco, volevo esprimere la mia opinione dicendo che sono io almeno assolutamente contrario, quindi ero a favore di quello che diceva l'ospite, non so chi fosse. Valentina Castaldini, portavoce del Nuovo Centrodestra. Ecco, quindi condividevo totalmente quello che diceva e, sì. E quindi contrario alla teoria che invece veniva suffragata anche dai conduttori, da voi insomma. No, non c'erano due teorie, c'era semplicemente questa teoria del gender, alla quale ho chiesto alla signora Castaldini di spiegarci che cosa fosse. Che cos'è secondo lei la teoria del gender? Secondo me l'equiparazione di una, diciamo, di un rapporto che è normale, ovvero quello tra uomo e donna, con quello tra due uomini piuttosto che tra due donne. Ah no, comunque guardi, nemmeno la signora Castaldini diceva questo, perché a parte che la teoria del genere appunto non esiste, e anche la signora Castaldini, diciamo, non sapeva esattamente come definirla. Sicuramente non è il fatto, no, di quello che sta dicendo lei. No, lui dice che l'equiparazione di una coppia etero, coppia omosessuale, esatto, è la teoria. Ma questa non genere. È la teoria del genere, questa è semmai l'accettazione dell'omosessualità, come è già stata accettata da 25 anni dall'Organizzazione Mondiale della anche Sanità. All'accettazione, ok, ma non è quella la teoria del genere, quindi deve trovare un altro nome, se no. Non è che possa anche lo stesso nome chiamare qualunque cosa. Ma no, posso allora chiedere secondo voi cos'è la teoria del genere? Guardi, la teoria del genere, chiedendo a chiunque, in realtà non esiste, molto semplicemente. Esistono i gender studies, che sono una cosa americana, per cui studiavano la questione del genere, ma non c'è assolutamente nessuno che intende dire che uomo e donna non esistono differenze, anche perché glielo spiego molto semplicemente. Io sono omosessuale, secondo lei io non ho interesse al fatto che gli uomini e le donne siano la stessa cosa? È ovvio, a me piacciono gli uomini, quindi voglio riconoscere quali sono gli uomini e quali sono le donne, quindi ci mancherebbe altro. Quindi questa teoria del gender è semplicemente un'invenzione degli ultimi anni per terrorizzare nei confronti, sostanzialmente per bloccare il DDL Cirinna, diciamo, nella quale vengono anche descritte precisamente dei punti di insegnamento, e nessuna organizzazione ha mai detto noi approviamo questa teoria. Non esiste semplicemente la teoria del gender, è uno spauracchio. Non per niente il portavoce dell'NCD ne ha un'idea e lei ne ha una completamente diversa. La signora dell'NCD diceva è il fatto che non esiste differenza fra uomo e donna, invece secondo lei, Antonio, è l'equiparazione fra matrimonio eterosessuale e quello omosessuale. Che dice Antonio? Ci ha capito qualcosa? Diciamo che secondo me la si gira un po' come la si vuol girare, ecco, pur di confondere le idee. No, io non voglio confondere, voglio sapere cos'è la teoria del genere, ma nessuno lo sa. Evidentemente non è tanto pericolosa. Si sta parlando del nulla, quindi si parla del nulla, una trasmissione sul nulla. No, noi non stiamo parlando di teoria del genere, noi stiamo parlando del fatto che Elton John ha criticato il sindaco di Venezia Brugnaro, che ha vietato 49 libri, e il portavoce dell'NCD è intervenuto in questa polemica dicendo: secondo me il sindaco ha fatto bene il suo lavoro. Questa è la notizia. Infatti Antonio, secondo me bisognerebbe che lei ci dicesse qualcosa su questa questione qua di Venezia, ci dica qualcosa, se no ritorniamo alla teoria del genere. Ci dica qualcosa secondo lei il sindaco di Venezia ha fatto una gaff, o c'è un danno d'immagine per la città o no? Allora, no. Secondo me no, anzi, non è un danno d'immagine. Per me è a favore di Venezia il fatto che il sindaco abbia vietato libri che propugnano storie strane e non. Però scusi, entrare in polemica ma con anche, uno come anche John. Ti può portare anche a un danno d'immagine. Infatti la Castaldini ha detto bisogna dare qualche suggerimento alla comunicazione del sindaco di Venezia. A volte bisogna essere politicamente scorretti. Sì. Adesso essere politicamente corretti significa essere pro gender, pro teorie che ormai le sentiamo da tutte le parti. E nessuno sa cosa siano, per esempio, lei. No, però secondo me le persone lo sanno. Invito tutti i genitori a fare fronte comune, almeno quelli che la pensano in questo modo, a fare fronte comune contro queste teorie nelle scuole. Ma se non sapete cos'è questa teoria, se non ci spiega che cos'è, è difficile far fronte comune. Allora, però va bene, io non lo so, però me lo spiega lei non lo sa. No, basta, io l'abbiamo già fatto questa cosa. Antonio, grazie, buona serata, la facciamo un'altra volta. La spiegazione per la terza volta della teoria del gender non ce la posso fare. Sono anche stupito su questo fatto di dire libri che propugnano, perché bisogna anche parlare di questi 49 libri che sono stati vietati, che sono quasi sempre, non so, libri che parlano di colori, anche perché è difficile, voglio dire, la letteratura per l'infanzia, io non lo so se sia una grandissima storia il fatto di una mamma che manda una bimba piccola nel bosco vestita di rosso a farsi mangiare da un lupo. Non è che quella lì è una bella storia, che uno dice ah che bello, spero proprio che mia figlia vada da solo nel bosco a farsi mangiare dai lupi. Luigi dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo rispondere relativamente alle nomine fatte di personaggi stranieri, a parte il fatto che io ritengo che un tedesco non è straniero ma è un europeo, come lo sono io sono un europeista ultra convinto, quindi per me un tedesco è mio cugino. È uno degli ultimi rimasti, comunque mi sembra un ottimo spostamento di punto di vista, giustamente dice non è uno straniero, è un europeo tanto quanto me. Ma questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che se uno è bravo e ha dei meriti, non capisco per quale motivo non debba essere nominato. A questo proposito mi permetto solo di fare un esempio ai detrattori, a quelli che dicono no, questa è una roba che dovrebbe essere solo italiana. Diversi anni fa un certo signor Claudio Abbado è stato nominato direttore dei Berliner Philharmoniker. Certo. Sì. Ora, io credo che questo sia stato fatto sulla base del merito, perché Abbado era uno dei massimi direttori d'orchestra, tra l'altro era andato via in malo modo anche dalla stessa Scala, ed è stato nominato direttore appunto dei Berliner. Questo cosa avrebbe dovuto sollevare in Germania come diciamo sentimenti come si può dire, nazionalisti? Esatto, nazione o di avversione, non ha generato nulla, perché evidentemente il popolo tedesco è probabilmente un filino più evoluto, o oserei dire più civile del nostro. Guardi, le dico di più, io sarei per nominare, dare delle cattedre di ordinario anche alle università, in modo che sia il merito lo strumento per la valutazione se dare o no una cattedra a qualcuno. Se uno è bravo, fa diventare più bravi gli studenti, stia tranquillo, è così. E secondo lei, scusi, al di là della questione straniero, tedesco o no, sì, ne ha parlato, io sono d'accordo con lei tra l'altro, ma il concorso secondo lei aiuta a trovare i migliori, oppure come dice Sgarbi è una merda il concorso, perché l'ha spiegato, si è dilungato abbastanza? Guardi, io sono convinto di una cosa, il concorso può essere semplicemente un primo passo, anche perché, scusi, noi tutti siamo andati a scuola, ma lei può dire che si ricorda esattamente quello che ha studiato 10, 20, 30 anni fa? Io no, molte cose le ho dimenticate, ho usato quelle che uso tutti i giorni, magari quelle so bene, tutte le altre me le sono dimenticate. Vabbè, parliamo di professionisti, però mi scusi, che lavorano in questo settore, quindi diciamo il concorso per curriculum viene fatto, no? Questo è lo strumento che è stato utilizzato. Vabbè, non ha un'opinione sul concorso, Luigi. Grazie, buona serata. Andiamo con... dove andiamo? Andiamo a Bernard, che chiama da Padova. Bernard o Bernard? Bernard, buonasera. Buonasera. Buonasera, complimenti intanto, mi piace molto la trasmissione. Grazie. Tedesco, grazie, Bernard, mille. Tedesco? Tedesco di Germania, sì. Come diceva la vecchia battuta di Fantozzi? Sì. Autoironico. Sì, da 30 anni che comunque abito in Italia, un po' di accento ce l'ho ancora comunque. Sì. Non è assolutamente un problema. Grazie. Ich kann auch Deutsch sprechen, wenn Sie wollen. Ok. Prego. Questa era un'altra radio. Allora, però. No, io volevo... forse dare una, anche un'altra lettura, forse dal punto di vista di uno straniero, sì. Perché una persona, adesso non conosco Schmidt, ma comunque anche un inglese o un tedesco o un francese che vuole venire a lavorare in Italia in un contesto sicuramente non facilissimo, che l'inglese alle 5 era sicuramente va a giocare a golf, io penso alla Brera, alle 5 inizia a scaldarsi pian pianino i motori, perciò deve esserci dietro queste persone una stima e un amore per l'Italia e chiaramente anche per le opere d'arte che ci sono nei musei che vogliono dirigere, molto importante, così motivazione, entusiasmo di venire qua a fare il concorso. Ha sentito quell'altro ascoltatore che diceva che oltre all'amore e all'interesse per l'arte italiana ci potrebbe essere addirittura un interesse economico, cioè che Schmidt sia mandato qua per fare diciamo la conta di quanti patrimonio c'è agli Uffizi, per fare una specie, come dire, di garanzia economica rispetto alla Germania. Lei che è tedesco. Sì, vabbè, sicuramente in tasca sua presumo che ne va meno, anche sicuramente meno sicurezza rispetto a un posto simile in Germania, perciò visto che è anche un posto pubblico non penso che possa migliorare per se stesso, e questo forse è già bene, che questo riflette questo entusiasmo con cui vuole fare. E poi adesso noi in Germania chiamiamo come Abbado, come anche uno dei direttori della Zeit. Ma no, che voi tedeschi avete sempre una fama un po', capito? Cioè lei che è italiano da 30 anni, ma insomma ad origini tedesche, c'è sempre questo spauracchio dietro della potenza tedesca, e quindi era una teoria un po' complottista, totalmente campata in aria, però gliela volevo chiedere. Grazie Bernard, buona serata. Grazie. Andiamo con Marina da Pordenone. Marina non c'è. Andiamo allora con Alessandro da Bologna. Alessandro? Sì! Prego! Ecco, no, io volevo parlare di Alfano, se possibile. Sì. Ma certo, è possibile parlare di qualunque cosa. Ecco, chi l'ha pagato il viaggio quando è andato in Albania con il Trota, il figlio di Bossi? No, questa domanda però la deve fare direttamente ad Alfano, nel senso che noi non siamo gli amministratori di condominio di Alfano. Ma perché fa questa domanda adesso, scusi? Perché probabilmente ha preso la laurea insieme al Trota, perché come fa a dire che gli extracomunitari profughi sono diminuiti rispetto all'anno scorso? È la nostra percezione che tutti i giorni vediamo arrivare profughi e tutti i giorni ci sono dei morti. Allora, no, non è la percezione, lui fa i conti, diciamo le statistiche, oggi che giorno è? Il 18 agosto, lui dice il 18 agosto dell'anno scorso, quella la voce che dice era arrivati di più l'anno scorso. Era la conferenza stampa di Ferragosto, classica conferenza stampa del Ministro dell'Interno, e dice a questa data l'anno scorso ne erano arrivati di più. Tutto lì. I dati saranno quelli, poi se ci sono dei numeri che non vengono conteggiati, però lui avrà dato i dati giusti, non anche credo. Anche a Salvini, a dire la verità, ha contestato questi dati, non dicendone altri, però ha detto che dava i numeri Alfano. Strano, comunque, perché Salvini dà sempre La nostra percezione è sicuramente che ne sono arrivati molto di più, ma soprattutto, ed è un dato certo, ne sono arrivati tanti morti. Questo allora mi domando, questa operazione Freedom, come la chiamano, che l'ha cambiata in 3 anni, gli ha dato 2 nomi diversi che adesso io non ricordo nemmeno come si chiama, ma porta al suicidio di tante persone che scappano e sono dei poveracci che pagano tutti i loro averi, questi scafisti della manovra, e chi non ha abbastanza soldi o chi è sporco, l'ho sentito nelle vostre trasmissioni, chi è sporco lo mettono in stiva, a morire nella stiva, perché quel passaggio del Mediterraneo non ce la fanno in quei 3-4 giorni. E cosa c'entra Alfano con questo? Allora, chi è che porta avanti le operazioni di salvataggio? Sì. È lui che ha deciso di cambiare con cioè, bisognerebbe mettere un veto, bisognerebbe andare là, ministro degli interni, non ne vogliamo più in Italia, andiamo a salvarli là, paghiamo quello che c'è va da bene, pagare. Tutti con Salvini, in Nigeria. No, ma nel senso che è molto difficile questo, e onestamente i morti nel Mediterraneo, di imputarli ad Alfano mi sembra un po' esagerato. Ma il fatto che Alfano dice che qui abbiamo cambiato l'ospitalità, li stiamo ospitando in tutte le città. Questi extracomunitari, questi profughi che sentono che in Italia comunque non abbiamo tirato su il filo spinato come in Ungheria, non abbiamo sparato come fanno a Malta e in Grecia, che li picchiano a bastonate. Noi qui in Italia ogni profugo che arriva lo portiamo in albergo a 45 euro, ma non sto adesso a discutere di questo. No, infatti non stiamo a discutere di questo, perché sennò si torna su quest'idea che noi li paghiamo degli alberghi, glieli regaliamo, non è così, non mi sembra che stiano tanto bene, quindi non mi sembra il caso. Grazie. No, lasciamo stare. Però dico, se ci fosse il veto in Italia non venite più, almeno avremmo salvati 45 di ieri e 450. Può darsi che abbia ragione lei, oppure può darsi che il veto non serva a niente, perché uno mette il veto e gli immigrati arrivano lo stesso. Grazie Alessandro, adesso è il momento di introdurre un'altra storia, vai. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Stare o restare è il dubbio, il dilemma. Adesso è partito ritornello. È il dilemma che ha attanagliato diversi insegnanti, che in questi giorni, è scaduto qualche giorno fa la possibilità di inserirsi nelle liste per passare da precari a assunti a tempo indeterminato. Oggi abbiamo raccolto su un giornale la lettera di una insegnante, Marcella Raiola. Buonasera. sì, buonasera. Eccola qua, ecco. Buonasera. Ho rifiutato l'assunzione a scuola, ma non insultatemi. Perché? Perché glielo chiedo a lei intanto. Ma guardi, innanzitutto il titolo, insomma, non rende ragione della mia scelta in pieno, sì, perché non ho rifiutato l'assunzione. Sì. Semplicemente non ha fatto la domanda. Sono rimasta nelle graduatorie provinciali, nelle quali, diciamo, io mi trovo dal 2002 e dalle quali vengo chiamata per incarichi annuali da 13 come anni. Supplenze, come supplenze? Il che vuol dire che ci sono delle necessità. Sì, ma sono supplenze questi, mi scusi. Ci sono posti da coprire. Scusi, ma stiamo parlando di supplenze in questo caso? Stiamo parlando di supplenze, ma attenzione, sì, l'assunzione non avverrebbe su cattedra, perché stiamo parlando di assunzioni innanzitutto triennali, quindi sono incarichi triennali che sì, poi possono essere anche non rinnovati, che dovrebbero essere presi fuori della propria regione, non si sa dove, perché lo deciderà un algoritmo del Ministero, che ci ha fatto sì, produrre, diciamo, ai miei colleghi una domanda. Scusi, però siccome noi di queste cose tecniche, scusi, 100 preferenze, scusi, noi, scusi. E quindi avverrebbe. No, però guardi, se fa questo tipo di discorsi non ci capiamo niente, perché no, sulla questione delle graduatorie è difficile, mi faccia parlare, mi faccia parlare un attimo. Prego. Allora, la questione delle graduatorie è molto complessa, cerchiamo di semplificare per gli ascoltatori, altrimenti non ci capiamo niente. Allora, lei non ha fatto domanda per, diciamo, per, sì, per questo tipo di assunzione, però di mi faccia finire la domanda. Faccia questo finire è la... il problema, perché... quello volevo sì, dire. Chi viene assunto facendo domanda viene assunto per tappare buchi, cioè per stare a disposizione del preside, non viene assunto su cattedra. Quello che andrà a fare glielo diranno praticamente. Non viene assunto a tempo indeterminato, non viene assunto a tempo indeterminato, abbiamo no, capito male. Viene assunto per un incarico triennale sì, che può essere poi rinnovato. E non solo. E invece scusi, assunto... e invece scusi, lei resta, perché la cosa interessante è capire perché ci sono delle persone che non hanno fatto domanda. Lei restando a Napoli nelle graduatorie provinciali, le rimane ancora una possibilità di essere, tra virgolette, ripescata, oppure rinuncia a questo tipo di graduatorie per sempre? No, io resto titolare del diritto all'assunzione sulla cattedra e non... Quindi lei, diciamo, tra la possibilità di andare... Avrò la possibilità, ovviamente saranno possibilità sì, molto risicate, perché esatto, probabilmente faranno... Però l'idea di spostarsi, per esempio, al nord, lei ha 44 anni? 44 anni, ha una famiglia, sì, immagino. No, io non ho insomma, famiglia, nel senso ha dei legami lì dove si trova. Lei ha 44 anni, l'idea di dire di tagliare i ponti e di trasferirsi al nord, perché è lì che ci sono i maggiori cattedre sì, a disposizione, questa cosa non se l'è sentita di farla, è così? No, ripeto, non me la sono sentita, nel senso che io difendo la dignità del lavoro e quindi credo che il mio percorso, il mio precariato, i miei diritti acquisiti vadano rispettati. Mi rifiuto di andare a fare quello se che dovesse ancora rimanere non senza, so, se dovesse rimanere senza chiamata, se dovesse rimanere senza chiamata, come farebbe a arrivare alla fine del mese? Guardi, io ci penserò, intanto lotterò perché questo meccanismo non vada in porto, per boicotteremo la legge che non è piaciuta a nessuno. Però è la legge ad essere legge, no? Di flessibilizzazione sì, del lavoro, cioè dobbiamo essere pronti a tutti, un po' alla Marchionne, o la Pagnotta o i diritti. Io quanto, sono in una graduatoria. Quanto avrebbe guadagnato entrando in questa graduatoria, dovendosi spostare da Napoli, che ne so, mettiamo a Verona o a Milano o dove c'era posto, qual è lo stipendio, glielo posso chiedere? Ma lo stipendio, insomma, si aggira attorno ai dipende dal 1200-1300 euro. È possibile, il problema è sì, per chi ha figli, per chi ha esatto, parenti, possibile che molti abbiano fatto, è possibile che molti abbiano fatto il calcolo dicendo: io per 1200 euro trasferirmi dal sud, dove ho una qualità della vita e un livello di spesa di un certo tipo, trasferirmi al nord, esatto, che è più caro, non mi conviene, non lo faccio perché non sì, mi conviene. Sì. sono stati molti, e devo dire anche c'è un'altra considerazione da fare, questo ricatto, o prendi tutto entro 10 giorni, vai fuori a fare qualunque cosa, oppure perdi tutto e vieni estromesso dal mondo del lavoro, è un ricatto che in qualche misura qualcuno può subire perché magari come me... No, è chiaro, questo concetto l'ha già espresso, però io le voglio dire una cosa, sa cosa pensano molti ascoltatori che ascoltano? Dicono come con tutta la disoccupazione che c'è, con il 12% di disoccupati, gente che non ha lavoro eccetera, il governo Renzi ha fatto questa sorta di sanatoria di molti precari della scuola, allora era meglio non farla. Allora è meglio non farla. Guardi, Renzi è obbligato a farla innanzitutto perché c'è una sentenza della Corte Europea emanata il 26 novembre scorso che lo obbliga e lo condanna l'Italia per abuso di precariato. Quindi tutti quelli che hanno 36 mesi di lavoro e di servizio devono essere stabilizzati perché c'è una legge europea del 99 che obbliga i governi a ubbidire. Renzi quindi è già in forte ritardo con chi è precario da 15-20 anni e per non pagare la multa ha pensato di giocarsi questa carta, solo che ha imposto delle condizioni capestro, cioè la mobilità selvaggia e la dequalificazione professionale abbiamo il diritto ad essere assunti anche secondo la Corte Europea. Quindi qualora lei dovesse rimanere fuori farà comunque ricorso, quindi si può dire questo, cioè molti di quelli che non sono entrati faranno ricorso. I ricorsi fioccheranno, tenga poi presente che le persone che si trasferiranno non rimarranno nella scuola in cui prenderanno servizio quest'anno, perché l'anno prossimo sono obbligati a fare domanda di trasferimento su tutta la regione nella quale vanno poi a lavorare. Questo significa che per almeno 3 anni non ci sarà continuità per i ragazzi, ci sarà un girotondo di docenti insomma in tutta Italia, sì. Senza contare che tutti quelli che non hanno fatto domanda... Ma non le dispiacerebbe perdere il suo lavoro se dovesse rimanere fuori dalla graduatoria? A Napoli perderebbe il suo lavoro, non le dispiacerebbe? È certo che mi dispiacerebbe, però ripeto, quello che sarei andata a fare non era il mio lavoro e comunque non ho intenzione di subire dei ricatti, perché ne va della qualità della scuola. E secondo me lei l'ha spiegato veramente benissimo nella lettera, se posso dire. Adesso non abbiamo il tempo perché dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma scrive una lettera bellissima nella quale a un certo punto giustamente si chiede qual è la ratio sottesa a questo sistema caotico e lambiccato. Me lo chiedo anch'io. Grazie, buona serata. Si può fare l'attualità anche d'estate. Oh, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, che ha appena sbagliato, ha detto che c'era il giornale radio, ma d'altronde sono lo stagista, poi però di solito faccio il sabato e la domenica, quindi chiedo scusa ai nostri ascoltatori. Tra poco ci sono i titoli del telegiornale, però prima ascoltatori. Marina da Pordenone, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io ho telefonato per quella del gender, per quella discussione di Elton John. Allora, secondo me, poi dipende, io non so i titoli dei libri che sono stati ritirati, sì. Però posso assicurare che ci sono alcuni titoli di cui si parlava prima anche in trasmissione, ottimi. Io sono insegnante e noi li usiamo anche a scuola. Sì. Però lei dove insegna? Scusi, dove insegna? In una scuola elementare. All'elementare, ok. Sì, anzi la primaria. E avete utilizzato alcuni di quei libri che Brugnaro ha tolto? No, nel senso che noi abbiamo... No, io no, allora non so i titoli di questi libri, sì. Però molti dei libri di cui si parlava anche prima in trasmissione, quello dei punti colorati, Piccolo Blu e Piccolo Giallo, è uno dei libri di Leo Lionni, esatto. È uno dei libri che è un capolavoro assoluto della letteratura infantile. Esatto, quelli noi li utilizziamo, li vediamo, per l'amor del cielo, e sono belli perché aiutano proprio i bambini in questo loro percorso. Certo. Però ci sono tanti altri libri. Io ne cito uno che ho visto qualche giorno fa proprio su internet, che si intitola Lisa e Jan, in cui si vedono proprio, cioè, sono per i bambini piccoli, perché chiaramente la fascia d'età va dai 3 ai 6 anni. Sì. Si vedono bambini piccoli che si masturbano, bambini piccoli che si toccano. Ascolti, mamme, bambini piccoli che si masturbano. Però abbiamo bisogno di sapere che libro è, perché che lei l'ha detto, che Lisa Ian. Ho capito, ma non Lisa credo Ian. Che sia un libro adottato da nessuna scuola, giusto? No, ascolti, è un libro di cui si parlava prima, come Piccolo Punto Giallo. È la stessa cosa, sono dei libri che vengono letti ai bambini. Ma in che senso? Se ne parlava prima? No, di sicuro, perché eravamo qua noi e no, non abbiamo parlato. Bisogna di... capire, no, no, bisogna capire. Marina, io, scusi, Marina, io, Marina, scusi, io. Marina, sì. Mi scusi. Bisogna capire se il libro che sta dicendo lei l'ha visto in libreria. È un libro che lei ha visto in libreria, oppure se è un libro che è nella lista di quelli tolti da Brugnaro, perché altrimenti non possiamo entrare nel merito, ripeto. Capito? È la terza volta che lo dico, però io questi libri, questa lista non l'ho vista. Però voglio dire, non ci sono solo libri positivi come quelli che sono ma dove? Se non sono nella lista, non stiamo parlando di questi libri, quindi che nel mondo esistano libri con bambini che fanno brutte cose, non lo mettiamo in dubbio, va bene? Che però i libri che invece qualcuno aveva deciso di mettermi nelle scuole vengano vietati è un altro discorso. Quindi questo libro di cui sta parlando lei, che magari è orrendo, io non dico niente, sarà schifoso, è un libro che viene usato, quindi leggendo. Che cosa posso dire? Ascolti, è un libro che viene usato, io lo stavo leggendo proprio su internet, che viene utilizzato nelle scuole, in alcune scuole svizzere. Vabbè, per cui viene un altro utilizzato paese. Nelle scuole. È un problema degli svizzeri a questo punto. Grazie Marina, buona serata, grazie. Fabio da Monza. Fabio? Buonasera. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo un attimo contestare questa difesa a oltranza del suo collega sulla questione dei libri, che mi pare un po' parenziana. Le faccio solo un punto, le pongo solo un punto. Sì. Allora, se questi libri sono stati dati a questa scuola, da questa consigliere di SEL, e cioè, non è una questione politica, ma io mi chiedo, ma l'abominio dove sta? Nel fatto che questi hanno questi libri o nel fatto che un consigliere di SEL può prendere e decidere che in una scuola italiana vengono... Guardi, io le dico come la penso io, l'ho già detto prima anche alla Castaldini, io credo che i libri non dovrebbe decidere né il consigliere di SEL né il sindaco Brugnaro, ma gli insegnanti. No, anche perché, diciamo, ribalto un po' la questione. Facciamo un'ipotesi, ipotizziamo che in una regione o in un comune governato dalla Lega l'assessore di turno decide di mettere un libro in cui si afferma che esiste la Padania. Il suo collega sarebbe contento? Guardi, no, è lo stesso esempio che ha fatto la signora delle pubbliche relazioni di NCD, quindi ci mancherebbe altro. Io non difendo... Allora perché lei sta difendendo perché, questa cosa dei libri? Perché questa io sto... Allora glielo spiego. Se vuole glielo spiego, se no non glielo spiego. La questione dell'omosessualità dei gender. Ma no, perché non riguarda il gender, perché il gender non esiste, come lei sa molto bene. Però quello che le volevo dire, io guardi che non è che sto dicendo che i libri vanno decisi da una consigliera di SEL, io dico che un sindaco è No, lei ha detto che questi libri parlavano di colori, ma di cosa stiamo parlando? Ma lei lo conosce Piccolo Giallo Piccolo Blu? Ma non mi interessa. E allora di cosa sta parlando, giallo, mi scusi, se non li conosce i libri ma è molto difficile. Io voglio sapere, non le interessa. Che i miei figli leggono dei libri che sono stati decisi possibilmente dal provveditorato degli studi e non da un assessore. Ed è la stessa cosa che vogliamo tutti, guardi, è la stessa cosa che voglio anche questo, direi ma non per niente, lo stesso sindaco ha vietato 49 libri e già li ha rimessi in commercio perché si è reso conto che ha fatto una stupidata, nel senso che ne ha vietati solamente due, quindi è molto chiaro. Direi che l'auspicio, grazie Fabio per aver chiamato, l'auspicio mio, suo, di Carlo Gabardini, della Castaldini, tutti a questo punto, è che non sia un politico a decidere quali libri vengono letti nelle scuole elementari, nemmeno Brugnaro però, è questo il punto. Titoli della 7. L'allarme di Frontex a luglio, 107.500 migranti sono arrivati in Europa, il triplo rispetto allo scorso anno. Da Catania il tragico racconto del naufragio in cui sono morte 49 persone soffocate nella stiva. Gli 8 scafisti oggi arrestati avrebbero preso a cinghiate, calci e pugni i migranti per impedirgli di uscire a respirare. Immigrazione al centro dello scontro politico, continua l'offensiva di Salvini, ma sulla proposta di Serrata contro il governo il leader della Lega resta solo, il capo dei vescovi italiani non partecipa al convegno su De Gasperi per evitare polemiche, ma le parole del suo discorso di Galantino sono durissime e la politica di oggi è un harem di cooptati e furbi. Selezionati i direttori dei 20 musei più importanti d'Italia, 7 gli stranieri, un tedesco guiderà gli Uffizi, 10 uomini e 10 donne, si volta pagina, scrive il ministro della cultura Franceschini, ma la scelta di affidarsi anche a non italiani fa discutere. Forte calo della cassa integrazione a luglio, le richieste all'INPS sono diminuite del 27% rispetto al 2014 e dell'8,7% su giugno. È il segnale che l'Italia riparte, commenta il Premier Renzi, ma secondo le previsioni dell'agenzia di rating Moody's la crescita dell'Italia nel 2016 sarà solo dell'1%, troppo poco per avere effetti sull'occupazione. Martina Levato, condannata con il fidanzato Alessandro Goetscher per l'aggressione con l'acido ad un ex, potrà vedere il figlio partorito 4 giorni fa una volta al giorno. Alla presenza di operatori sanitari è stata dal tribunale avviata anche la procedura di adottabilità. In un video le immagini dell'autore dell'attentato di Bangkok che ha seminato terrore nella capitale thailandese e provocato finora 22 morti, l'uomo non è stato però ancora identificato, esclusa la pista islamica. Si può fare l'attualità anche d'estate. Buonasera Patrizio Roversi. Ciao, buonasera. Ciao, come buonasera. Stai? Dove ti troviamo, in vacanza o? Ma no, in questo momento sono a casa mia a Bologna, quindi. Ma che meraviglia. Anche perché viaggi per lavoro, quindi quando sei in vacanza secondo me ti chiudi proprio nel salotto di casa, anche gli scuri sì, chiudi. Ti sei andato molto vicino, in effetti la vera vacanza è stare a casa, ma insomma è un altro discorso. Senti, siamo venuti a chiederti un soccorso perché oggi abbiamo letto sui giornali che crescono le mete pericolose del turismo, lo dice il Ministero degli Esteri. Adesso l'ultima emergenza riguarda la Thailandia. Intanto la Thailandia ci crolla un mito, è stato sempre un paese super tranquillo, o no? Sì, guarda, allora io non l'ho visitato perché nel nostro giro del mondo è una delle mete che è toccata a Siusi, ho visto i suoi filmati e i suoi racconti, tra l'altro adesso abbiamo anche ripreso un po' di questi ricordi della Thailandia perché Siusi è andata proprio con Elio Fiorucci a visitarla e quindi ne abbiamo riparlato in occasione purtroppo della scomparsa di Elio, che è stata una guida stupenda. Sì, è una delle mete più pacifiche dove la gente immagina di andare a stare anche più per tranquillo dell'India, più semplice da capire dell'India, però comunque accogliente, economico, bello. Sì, eccetera, è un paese con le sue brave contraddizioni, naturalmente, ultimamente le vicende politiche non sono semplici e né lineari, però certo crolla un mito, ma probabilmente crolla il mito della pace nel mondo, scusami se uso paroloni, però è così, cioè ormai la mappa... Cioè sono tempi difficili in qualche modo, eh? Sì, perché laddove non puoi andare a fare turismo, e però io mi fermerei perché non mi sembra che la Thailandia possa essere adesso messa nell'elenco dei paesi in cui non puoi andare a fare turismo, ma comunque diciamo la mappa dei paesi proibiti ai turisti in realtà segnala la mappa dei paesi in guerra. E purtroppo, purtroppo queste zone sulla cartina del mondo sono sempre più espanse ed è un campanello d'allarme tragico. Detto questo, la Thailandia non mi sembra che possa essere definita una meta a rischio. Anche perché diciamo questo, c'è stato un attentato alla metropolitana di Londra qualche anno fa, non per questo la gente abbiamo smesso di andare a Londra. Lo stesso qualcuno ha detto per la Tunisia, un attentato purtroppo è un fatto gravissimo, però non aumenta di per sé diciamo il rischio che il paese sia una polveriera, il paese è una polveriera a prescindere da un attentato, quindi sono altri paesi. Qui purtroppo metti il dito doppiamente nella piaga. Noi io Siusi, gli altri complici di Turisti per Caso gestiamo per conto del nostro editore questo sito turistipercaso.it e anche la rivista, e naturalmente sono diciamo delle piattaforme in cui i turisti e i viaggiatori confrontano le proprie esperienze, quindi il dibattito è stato fondamentale riguardo la Tunisia, per esempio. Prima ancora era stato un dibattito molto profondo per quanto riguarda altre mete. Purtroppo bisogna prendere atto che le zone a rischio sono sempre più estese, perché il rischio è diffuso e quindi in teoria più o meno dovunque hai il teorico rischio di incappare in un attentato. Certe zone hanno contraddizioni più aspre e altre meno. Per la Tunisia io ricordo di aver avuto un problema gravissimo, perché dopo il primo attentato ci siamo spesi, io in particolare, dicendo: ma non si può mollare un paese bellissimo come la Tunisia, che vive di turismo, per un episodio come questo, che poteva accadere, eccetera eccetera. Poi è accaduto il secondo, allora fai fatica a dire andiamoci ugualmente. Io ricordo, per lo Yemen ho veramente sofferto, perché io sono andato in Yemen, uno dei viaggi più belli che ho mai fatto, attorno al 2003-2004, e mi ero speso, ho fatto un viaggio stupendo, un viaggio sicurissimo, c'erano già stati degli episodi di rapimenti di turisti eccetera, e io sul sito, sulla rivista, dicevo: ma se andate con un'organizzazione seria, con delle persone locali. Io sono andato col mio amico Marco Rivadiotti, che praticamente è nato là. Ecco, cioè, se tu sei preparato, vai con le persone giuste, fai le cose giuste, controllate, non corri alcun rischio. Quindi stai già rispondendo alla domanda che avrei voluto farti: come sceglie e organizza una vacanza il turista consapevole? Aspetta, non però, è che tutti hanno un amico nato in Yemen, però. No, il problema è questo, no, ma è un'agenzia in realtà. Ma il problema è questo, che dopo il 2004-2005 le contraddizioni non sono più state legate appunto alla competitività tra il governo centrale e alcune zone, alcune tribù, chiamiamole così, ma dopo ci sono state contraddizioni più feroci. Adesso in Yemen non ci puoi andare, purtroppo, no? Quindi bisogna sempre fare la fatica di informarsi, approfondire, capire quello che sta succedendo, perché capendo queste cose poi puoi valutare realmente il pericolo e ovviamente affidarsi in queste zone a persone che sanno quello che fanno, lunga insomma. Esperienza, contatti veri nel posto, eccetera eccetera. Ti voglio fare un'altra domanda, adesso te la faccio, poi ci fermiamo per il traffico, così ci pensi. Ci sono però, al contrario, delle mete che sono tornate, diciamo, disponibili, aperte, più sicure rispetto a un passato recente? Adesso mi viene in mente l'Iran, non sono un esperto, però fino a un po' di tempo fa l'Iran faceva un po' di paura, adesso forse invece no. Traffico, torniamo tra un attimo con Patrizio Roversi. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, Patrizio, ti stavo appunto chiedendo questo, se io ho citato l'Iran, però magari ci sono dei posti che dici? Guarda, ti dico questo, che durante i minuti che mi hai concesso per pensarci, oltre all'Iran non mi è venuto in mente niente. Nulla, se non alcune zone, che però francamente io dell'Africa centro-sud, dove probabilmente alcuni stati sono stati in qualche modo pacificati e ci si può andare. No, piuttosto il traffico mi ha dato invece lo spunto per un'altra riflessione. Quando con Adriatica siamo tornati dal giro del mondo, qualcuno ha chiesto allo skip, che allora era al timone, e gli ha chiesto: scusami, ma che ci vuole un bel coraggio veramente a fare, no, il giro del mondo in barca, eccetera eccetera, e lo skipper Gigi Nava ha risposto: guarda che ci vuole molto più coraggio a prendere tutti i giorni una tangenziale o un'autostrada. Mi sembra un'ottima risposta. Lo so, ma è una risposta vera. È vero, Nava è vero, un'ottima, è in barca da 20 anni assieme a sua moglie, e il problema è che purtroppo si tratta di convivere un po' con questo tipo di pericolo, che purtroppo incombe per queste contraddizioni feroci che sta attraversando il mondo. Ecco, io credo che il viaggiatore, il turista, debba cercare di capire qualcosa di più, perché se il mondo va in questo modo ci sono delle ragioni economiche, storiche. Secondo me l'impegno è quello: viaggiare e capire cosa sta succedendo. Metterci la testa, è un lavoro anche quello, mi scoraggi, perché se io ma no, perché è più bello così. Non è un lavoro, è proprio la passione che devi mettere nel viaggio. Ricordo i primissimi viaggi in Medio Oriente, quando appunto erano tutti paesi assolutamente visitabili, per esempio in Egitto, uno dei primi viaggi che abbiamo fatto, e lì per esempio tutte le contraddizioni c'erano già. Abbiamo parlato con dei giovani islamici, no? E ci raccontavano la loro, i loro problemi, la loro avversione per un mondo occidentale che non, da cui non volevano essere invasi. Non erano ancora gli anni dei grandi conflitti, ma già gli elementi c'erano. Allora il turista deve andare in giro e fare domande, cercare di capire, perché è quello un po' il sale del viaggio. Non è fatica, è il bello. Cosa va adesso, anche guardando al forum lì sul sito Turisti per Caso, di viaggi, oppure anche l'ultimo viaggio che avete fatto voi? Ma guarda, c'è stata la grande diatriba Grecia sì, Grecia no, e lì era facile prendere posizione. Dai, Grecia sì, a quel punto. Ma Grecia sì. Ma Grecia sì, Grecia no, per quali motivi? Nel senso che per appoggiare i cugini della Grecia o... Allora, il turista giustamente vuole risparmiare. Per divertirsi e per star bene, non vuole complicazioni. Tipo il bancomat che non funziona. Ma all'inizio dice, ma come, ma poi mi devo portare i liquidi, certo. E allora magari mi rischio mi di rapinano. Perdermi o che mi rubano, e poi come faccio, il bancomat eccetera. Allora abbiamo messo, diciamo, in circolo o da amici greci o da italiani residenti in Grecia o da turisti italiani già in Grecia che hanno rassicurato la comunità, e immagino che quest'estate ci sia stata molta gente che per varie ragioni... Sì, poi nel frattempo hanno trovato questo accordino, adesso vedremo se va tutto bene. Lascia stare, un'altra nota dolentissima. Esatto. Però ho capito, io sono andato in Grecia per fare un lavoro quest'inverno, Linea Verde, e la cosa che mi ha appassionato è capire l'umore, capire come stavano, capire cosa stava succedendo, no? Perché il bello del viaggio è quello lì, è il contatto con le persone per capire che aria tira. Certo, certo. Ma io domani devo andare a Pescara perché vado a presentare il libro. È una zona pericolosa Pescara? Si può fare? No, però ti consiglio il treno. Certo che vado in treno, io non ho neanche la patente, guarda, quindi non rischio niente. Bravo. Io non ho più neanche l'automobile, dopo aver fatto 100.000 km all'anno in automobile, adesso sono diventato un assiduo del treno e sto riscoprendo pian piano le corriere anche. Bello, condivido in pieno perché ci si muove molto meglio, condivido. Altrimenti rischi di fare la fine di Messner, che voleva andare a cercare lo Yeti in Pakistan. Ho letto la notizia 10 minuti fa sul computer. Insomma, però Messner è una meraviglia. Sì. Datemela perché io non l'ho letta la notizia. Dove va fa casino. No, voleva andare in Pakistan sulle tracce dello Yeti, e già questo è abbastanza straordinario di per sé. Però poi si è sparsa la notizia e lui ha detto: non vado perché sennò i talebani mi prendono di mira. Così ha letto bene. Ma sì, più o meno anch'io ho letto solo il titolo. Comunque il suo attivismo è veramente ammirevole. Anche perché io non sapevo, i talebani tifano Yeti? Come mai dovrebbero avercela con lui? Ma sai, non lo so quale sia stata la sua analisi, ma forse temeva, facendo notizia, di esporsi, no? E qualcuno, certo, per in qualche modo arrivare alle prime pagine mondiali, catturare lui al posto dello Yeti. Non lo so. Il messaggio che gli mandiamo è: vai tranquillo, in Pakistan, Messner, andiamo tutti in giro, che tanto qualcosa si rischia, però come ha detto Patrizio Roversi si rischia di più sulla tangenziale. Ciao, auguri, buona grazie serata. Grazie mille, ciao. Arrivederci, ciao. Grazie. Buonasera a tutti, ciao. No, sembra una cosa, ma è vero, tu poi non c'hai la patente, quindi tu non c'ho niente, non c'ho riparo. Macchina, non c'ho patente, non rischio. Oddio, sui treni a volte, insomma, a volte si fanno dei ritardi pazzeschi, ecco, se si può dire. Di solito poi si sfoga tutto su Twitter, tra l'altro. Andiamo con Giorgio che ci chiama da Asti, buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a te. Io volevo risaltare sull'argomento concorsi pubblici e nomine dei direttori. Ottimo. Purtroppo mi sono collegato in ritardo, quindi mi sono perso la sicuramente interessante descrizione di Sgarbi. Ma volevo, come ho già detto alla persona con cui ho parlato prima, diciamo così, spezzare una lancia contro i concorsi pubblici. In quanto io sono intanto un dipendente pubblico che un concorso pubblico l'ha fatto e l'ha anche vinto. Per cosa? Ma io sono un funzionario tecnico di un ente della regione, sono un ingegnere e ormai più di 30 anni fa vinsi un concorso. Ed era un concorso farlocco? Un concorso farlocco? No, era un concorso fortunato, nel senso che io stavo facendo tutt'altro mestiere, volevo. Sì. occuparmi di ambiente, che era la mia passione. Vedo un bando, mi iscrivo, dopo due anni non mi ricordavo neanche più di essere iscritto e mi ritrovo seduto in tre ad un concorso per tre posti. Vabbè, ha avuto una bella fortuna. Nonostante io sia bravissimo, l'ho vinto, infatti uno dei tre è anche stato bocciato. Come? Tre su tre? Comunque uno non ce l'ha fatta? Tre su tre, uno è stato bocciato. Ah, sì. la vedi che era un concorso serio. Non facciamo i nomi allora. Però questa esperienza... Dopodiché però la mia carriera è finita lì, nel senso che ai famosi concorsi da dirigente vengo sistematicamente rimbalzato, salvo il fatto di passare invece un concorso alla Commissione Europea per esperto nazionale distaccato 4-5 anni fa. Sempre tramite concorso. Allora... Assolutamente no, nel senso che se vengono pubblicate delle call, uno manda il proprio CV, la lettera di intenti, insomma. Si sta facendo secondo me confusione, perché la parola concorso, quello di Franceschini, siccome non è, tecnicamente non era neanche un concorso, era un bando, come dicevi tu, cioè una call a cui uno può rispondere mandando il curriculum. Infatti io ce l'ho invece contro gli altri, quei concorsi che di solito vengono fatti per 2-3 mila posti in pompa magna, che sembra che garantiscano che il vincitore è sicuramente non raccomandato. In realtà, secondo il mio modesto parere, per cui è sindacabile da però chiunque, c'entra poco con quello di Franceschini. Tutelano, il concorso pubblico, che di sé visto come la garanzia di non corruzione, in realtà tutela semplicemente chi nomina. Perché questo è possibile, però io ripeto Giorgio, non c'entra molto col tema del bando di Franceschini, che è un'altra cosa, perché quello è una cosa diversa, è un bando, abbiamo detto, insomma, con una call, come ha detto giustamente lui. Andiamo con un altro ascoltatore, forse l'ultimo per chiudere questa sera. Claudio da Milano, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Io volevo ritornare velocissimamente sul discorso della mamma Martina e del bambino Achille, anzi del bambino Achille. Sì. Io sono un padre adottivo, felicemente adottivo, e vorrei parlare solo dal punto di vista del bambino. Credo che sia che bisognerebbe fare, perché qualcuno dice bisognava, questa donna deve pur pagare una pena, ma la pena che deve pagare non c'entra nulla col fatto di farla pagare al bambino. Questo ma deve essere è il chiaro. Bambino che sta pagando la pena, e in parte anche io addosso discrete colpe al Tribunale dei Minori. Erano 9 mesi che la signora era incinta e il Tribunale dei Minori non può aspettare 4 giorni prima sottrarre il bambino, poi dire che adesso lo vede una volta alla settimana fino a che... Questo devo dire che ha qualche ragione, forse sarà perché ha deciso tutto il PM che era di turno la notte di Ferragosto. Sapevano da 9 mesi, lo sanno tutti che ci si impiega 9 mesi a partorire un bambino. Però comunque una scelta avrebbero dovuta prenderla di qua o di là. Ma immediatamente, qualunque scelta sia, io non voglio entrare nel merito, ma dal punto di vista del bambino, il bambino aveva diritto di avere una scelta subito, non dopo qualche giorno e poi ancora in termini più o meno così, non ben precisi sul suo futuro. Questo mi sembra veramente brutto verso il bambino. Va bene, grazie Claudio, grazie anche a lei. Non era l'ultima telefonata, l'ultima sarà quella di Silvia, forse da Torino. Eccomi. Prego. Pronto, buonasera a tutti, e volevo parlare della questione della lista dei libri famosa di Venezia, sì, che lega tutta questa questione del gender. Allora, io sono una mamma di 40 anni e in casa ho circa 4 almeno dei libri, da quel che ho potuto vedere, della famosa lista. Sì, uno di almeno lei sa di cosa stiamo parlando, perché ha visto i titoli. Le posso dire di sì, posso dire che potrei firmare molta parte delle cose che ho sentito dire a Gabardini, eccetera. E la ringrazio. Ci mancherebbe. Il grande grosso libro delle famiglie che ho davanti è un libro che parla di cose inquietanti e scandalose, cioè del fatto che ci sono famiglie di tanti tipi, ma che vuol dire famiglie adottive, famiglie con di persone che vengono dall'estero, per esempio, famiglie che vivono, in cui i bambini vivono soltanto con i nonni. Se non sbaglio è esattamente il libro che Elton John ha pubblicato nel suo post per commentare il divieto dei libri, dicendo: noi questo libro nella nostra famiglia viene molto letto, che è The Family Book, se non sbaglio. Può darsi, sì, che è stato tradotto qua in Italia, pubblicato da San Patello, ma è stato tradotto effettivamente da un libro in inglese, quindi mi immagino Todd di Parr. Perfetto. E in effetti è un libro bellissimo che parla di tante cose. A scuola viene usato per almeno da noi l'abbiamo anche regalato per eccetera, perché può essere utile a raccontare la realtà. Noi siamo in un quartiere che è San Salvario, in un quartiere Torino, diciamo zona centrale, zona molto mista. Nella nostra classe ci sono famiglie con bambini che vengono un po' dappertutto. Ma per chiarire, in questi libri che lei ha e che ha letto anche, lei è dei bambini, ho capito bene? Sì, una bambina. Una sì. bambina. Si parla di masturbarsi? Ma non si parla, bisogna andare a vedere le cose nei libri che ho io. No, ma quello che è chiaro, almeno a chi è andato un po' ad approfondire, diciamo, la questione del gender, che come dice Gabardini, il gender non esiste. Esiste la categoria sociologica, filosofica degli studi di genere, certo. che appunto è uno strumento, serve per capire certo. che cos'è che non esiste. Non esiste qualcuno che dice andiamo a scuola e trasformiamo tutti in bambini uguali, oppure trasformiamoli tutti in omosessuali, che è quello che si legge in questi SMS che ricevo anche io, liste di catene infinite che arrivano e terrorizzano. Se io ricevo esatto. un SMS da mamma con scritto a tua figlia verrà insegnata a masturbarsi, io un po' mi preoccupo. Certo, fa bene signora, ci mancherebbe. Ma questa cosa non esiste. Cosa esiste invece? Esiste la violenza di genere, esiste il bullismo. Quindi la domanda che mi faccio io da mamma è: che interesse ho a che mio figlio nasca in una società, cresca in una società in cui gli viene insegnato che queste cose qua, che sono le differenze eccetera, sono cose brutte o peccaminose, per usare una parola, diciamo. Guardi signora, ha ragionissimo, io la ringrazio anche molto in realtà di aver chiamato, perché prima forse me la sono un po' presa sulla questione del gender, semplicemente perché essendo una cosa che non esiste, uno un pochino è esasperato a dover spiegare questa cosa, e chiedo scusa se prima un po' rapidamente tagliando le curve dicevo appunto, parlavo della teoria del genere. Ma sono molto contento che chiama per questa questione, per il fatto che questi libri in realtà educano a comprendere che delle differenze esistono, delle differenze ci sono, ma dobbiamo superarle e bisogna portare i bimbi all'integrazione. Questo poi dopo, al di là di tutte le altre parole, quindi la ringrazio moltissimo. Fine della trasmissione per questa sera. Io voglio ringraziare Andrea Piana, che è tornato autore insieme a noi del programma, ma anche grazie a Gala, Cristian Goldoni e Leonardo Siligato in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiamo domani. Carlo, ti risentiremo al telefono. Sì signori, io volevo ringraziare te Alessio, che io in quest'estate sono un po' ballerino, che sono in giro a presentare il libro, quindi non sono sempre presente, chiedo estremamente scusa. Ciao a tutti, a domani, buona serata, ciao. Mi chiamano lo sgarbi dei poveri nel mio rione. Voi siete lì, voi due stronzetti, sì. Siete quelli che avete preso il posto di quegli altri due.